ora! È ora di avere un sito internet! È ora di vendere i tuoi prodotti online! È ora di farlo da solo! Perché è facile! Perché tu puoi! Con Supersite su aruba.it. Pronto? Antò! Chi è? Chi parla? David Parenzo! Oh, ciao, ciao David, come stai? Marimortaccia, bene, bene, sono qui con Giuseppe, volevamo farti un'intervistina al volo. Quando? Quando adesso, vuoi. Adesso, quando adesso. Vuoi? Adesso non si può perché sto aspettando che arrivano quelli del TG2. No, ma due secondi. Vabbè, facciamo due minuti adesso, ma quando arriva chiudi, chi se ne frega. Poi no, no, no, mi sto vestito. Guarda, prova a richiamare fra 10 minuti eventualmente. Antò, quando c'è l'intervista? Perché sta cosa ha visto di Tajani. Ma come sto vestito? Prova a richiamare fra 10 minuti. Ma che se stai nudo in casa, scusa, non ho capito. Ma allora fatteli i cazzi tu, ah no, va, va al culo. Ti pare che uno stia... La zanzara. Tutto il resto è noia. No, non ho detto gioia. Se passa questo fuorviante principio per cui la salute è più importante della libertà, allora dobbiamo ripensare l'intera storia dell'Occidente. Alle Termopili cosa sarebbe accaduto se avessero detto... No, no, no. Alle Termopili! Alle Termopili, ha detto! Alla battaglia delle Termopili! Ha citato la battaglia delle Termopili! Questo coglione ha citato la battaglia del 480, se non ricordo male, avanti Cristo! Un caro saluto dal Pelago Ligure, da Lavagna, dal Sol Levante, con il mio caro amico Michele Canetta. Siamo pronti a principiare una conferenza filosofica. Immaginate la rilettura, cari amici, dell'intera storia dell'Occidente. Se alle Termopili avessero detto le Termopili. Ah no, la salute va ancora con le Termopili? Libertà. Ancora pensate con le Termopili? Detto, ancora ah no, con le Termopili? Pensate se i partigiani nella resistenza avessero detto ah no, la salute va al più della libertà. No, la libertà è un valore sacro. Ma che sacro, cazzata è, qui non c'è il fascismo. In nome del quale non si può reprimere. Ma che stupidaggini, ma perché cosa caro hai studiato tu? Per dire stronzate. Ma perché che paragoni del cazzo sono? Ma il tuo t'hanno fatto studiare per dire ste stronzate? Carissimo, per paragonare il periodo che viviamo al fascismo? Brutto, urlando, imbecille, filosofo di sto cazzo! Io dico uno che si spaccia per intellettuale, ma non mi adombro, ti mando a fare il culo e basta, non me ne frega niente. Ma perché devi usare? Perché ti devi rendere ridicolo usando queste parole? Perché mi diverto a vedere lei che si ingaglioffisce e si sbertuccia da solo. Croce durante il fascismo aveva la libertà ma d'espressione. Ma tu non sei Benedetto Croce, sei un benedetto coglione. Ma non sei Benedetto Croce, sei una croce, nel senso guardi che sei una croce. Da tanto molto lavoro da fare al mio avvocato, perché tutte no, queste parole no, avvocato, che lei usa sono vaffanculo, ma quale avvocato, ma me ne fotto, sei venuto qui, ti fai pigliare per il culo, sei venuto qui, ti fai pigliare per il culo. Ormai non ti invita purtroppo più nessuno, ti invitiamo solo noi, ma ti rendi conto o no? Te ne rendi conto o no? Che ti invitiamo tutti, solo noi, perché ti rendono tutti, nelle redazioni, ti chiamano il coglione! Vi annuncio, signori e signori, che siccome David Parenzo sta facendo una grande marchetta, essendo un marchettificio vivente, per Confindustria, nella sede di Confindustria da cui dovrebbe essere collegato in Viale dell'Astronomia, questa marchetta si è prolungata di qualche minuto. si è prolungata di qualche minuto questa enorme marchetta. Dunque, chi sta ascoltando lì e capisce quello che dico, cacciate a pedate nel sedere il signore e fatelo arrivare ai microfoni. Il marchettificio ambulante David Parenzo. In collegamento invece, questo sì che c'è, dal suo lettone Abano Terme, Alberto Gottardo. Eccoci qui. Sempre più mollemente adagiato, anche se ho perso un altro chilo. Comunque non te ne frega, mi pare di capire che non te ne frega un cazzo. Non te ne fotte un cazzo di questo aumento dei contagi, il tasso tra tamponi e contagiati che è sul 6%. Guarda, non te ne frega un cazzo, mi sembra di capire. Quando? Fino a quando i tamponi positivi saranno anche quelli di quelli che erano positivi di due settimane fa e li ripetono finché non si negativizzano, e fino a quando poi i posti in terapia intensiva sono assolutamente strasufficienti per tutti, io non mi preoccuperò. Tutto là. Invece quello che si preoccupa è De Luca, il signor De Luca, che dice no mezze misure. Praticamente vuole fare il coprifuoco totale in Campania. Io ho detto una cosa al signor De Luca ieri sera durante la trasmissione di Del Debbio. Signor De Luca, uno può anche chiudere bar, ristoranti, eccetera. Tutto questo si può fare. Cioè, se lei pensa che sia necessario chiudere tutto, chiuda tutto. Poi però soldi in mano va a dare i quattrini a quelli che hanno già dei problemi per il lockdown precedenti. Beh, e adesso si trovano con le pezze al culo. Ed è quello che vogliono i napoletani. I napoletani, secondo te, vogliono continuare a lavorare 24 ore su 24 Tu dici che potrebbero essere favorevoli al lockdown per essere poi risarciti, dici? Grande pacchia. Magari essere risarciti, magari come quello che è successo anche nelle aziende del nord-est, che sennò mi tocca finire da Barbara D'Urso un'altra volta, che c'erano quelli che avevano gli operai contemporaneamente in cassa integrazione e anche però al posto di lavoro. E allora potremmo avere i bar contemporaneamente in lockdown con i risarcimenti però anche aperti, e così la pigliamo in culo come è stato due volte, capisci? Due volte la pigliamo in culo. Di fronte ai numeri del contagio che abbiamo oggi in Italia, le mezze misure non servono più a niente. Prima prendiamo decisioni forti, meglio è. Le decisioni forti di De Luca. Le decisioni non devono essere forti. No, ma aspetta, utili, ma aspetta non un attimo. Forti. Cosa vuol dire forti? Aspetta, bar chiusa alle 23. Che cazzo vuol dire bar chiusa alle 23? Perché che succede dopo le 23? Non ho capito. C'è il virus dopo le 23 attivo? Il virus attivo, prima... il virus è Dracula, no? Sono i licantropi. Abbiamo già deciso la chiusura dei bar alle 23. Saranno consentite le aperture fino a mezzanotte soltanto per quelle attività, parlo di bar, pizzerie, ristoranti, che sono in grado di offrire posti a sedere in condizioni di sicurezza. Che non vuol dire un cazzo, naturalmente. Senti questo. Deve essere bloccata la movida, non c'è niente da fare. È inutile che continuiamo a fare appelli al senso di responsabilità. Abbiamo verificato con i dati di fatto che abbiamo una percentuale di irresponsabili che continuano a non capire le cose più elementari, che se vogliamo tenere in piedi il grosso delle attività economiche, se vogliamo evitare di chiudere l'Italia, è assolutamente indispensabile indossare sempre la mascherina e lavarsi sempre le mani e igienizzarsi. No, ragazzi, abbi pazienza. Responsabile è De Luca, governa da 10 anni la Campania, mi risulta, no? E allora la più grande irresponsabilità è quella di avere il numero più basso di terapie intensive in Italia. Neanche la Calabria ce l'ha così basso. Quella è una irresponsabilità. Non puoi andare a rompere i coglioni ai tuoi concittadini se poi non hai fatto nulla negli ultimi anni, nulla negli ultimi mesi, anche durante l'epidemia, per aumentare i posti. Se la prende coi ragazzi che tengono la mascherina sul collo. Vai. Ma per favore. Continuo a trovare decine di ragazze e ragazzi che hanno la mascherina sul collo e si mettono a parlare a mezzo metro di distanza. Ma come si può essere così irresponsabili? Ho già detto e vi ripeto, basterebbe solo indossare sempre la mascherina per ridurre del 90% le occasioni di contagio. Abbiamo verificato che purtroppo la quantità di irresponsabili rimane elevata. Sì, mi dispiace. Sì. In queste condizioni bisogna prendere inevitabilmente misure rigorose. Sì, ma comunque la principale fonte di contagi magari sono anche i trasporti. Ma di che stiamo parlando? No, dai, sono, su. Sì, in famiglia il 73%, vietare i trasporti al 9%. Tutte le cerimonie, vai. Sono vietate tutte le cerimonie. Matrimoni, prime comunioni, cresime, tutto quello che diavolo si vuole. Funerali con cortei, proibito tutto, sono tutte occasioni di contagio. Per un matrimonio che è stato fatto a Monte di Procida abbiamo avuto decine di contagi positivi. Un matrimonio, uno. Comunque ragazzi, è chiaro che De Luca considera tutti i suoi concittadini dei minus abens, perché pensa, no, ragione, ma quello può votano, darsi. Lo votano, no, lo ma votano, al di là scusami, di, non ma ha di, fatto nulla per migliorare. No, ma aspetta, la sanità campana, al di là di questo, pensa che tutti siano incapaci, cioè non è possibile non riuscire a organizzare un matrimonio come si deve. Se uno si vuole sposare, per me è già una follia questa, perché uno decide di sposarsi proprio in particolare adesso, ma per carità, per me il matrimonio sarebbe da abolire, figuriamoci adesso. Uno decide di sposarsi perché in Campania si sposa evidentemente più che altrove, questo blocca le cerimonie perché uno non riesce a organizzarsi nemmeno in 30, ma cazzo, distanziatevi, cioè uno dà un po' di responsabilità alle persone, no, adesso prende come esempio un matrimonio e via, chiusi tutti i matrimoni, dunque falliscano tutti quelli che organizzano le cerimonie, matrimoni, certo, tutti falliti, certo, senza certo, dare un euro a nessuno che viene chiuso, dai, chiaro. Su ragazzi, jogging. Anche qui limitazioni, dalle 6 alle 8 e mezzo di mattina. Abbiamo trovato persone che fanno jogging senza mascherina, in mezzo alla gente, in mezzo ai bambini. Non è possibile. Ma scusa, ma come fai a correre con la mascherina? Ma come fai a fare running, a correre con la mascherina? Non ho capito, ma è pazzo. Cioè. Ma come fai? Cioè, ma non puoi andare in giro con la mascherina mentre corri? No, misure di guerra. Il governatore del mondo mi piace solo per questo. Mi piace solo quando dice queste cose da guerra. Perché sì, però è ora di finirla con questi che parlano e non concludono mai nulla. Io credo che. Ma non concludono, adesso vediamo. Questa epidemia di parole all'aria senza un risultato negli ultimi anni è veramente una cosa vergognosa e da terzo mondo. Vai De Luca, vai. Prenderemo misure di guerra. Misure ma di se guerra. Dobbiamo avere l'obiettivo di salvare la vita dei nostri concittadini, dobbiamo decidere, costi quel che costi. Porro, vai con Porro, vai. Avete visto come sono calmo, serafico? Perché detto, qua mi dovrò abituare a stare a casa nelle prossime settimane. Beh, la borsa paga il boom dei contagi. È una stronzata! È una stronzata! Un giornalista oggi, se ci fossero dei giornalisti in Italia che avessero il mio punto di vista, che è quello del Daily Mail, che è quello della ragionevolezza, oggi faremo dei titoli cubitali. Ragazzi, questa malattia è mortale soltanto in rarissimi casi. State attenti a non andare negli ospedali. Non c'è una battaglia contro il Covid, non è un tumore, chiaro? C'è semplicemente il modo di vincerlo dicendo: ragazzi, state a casa, non contagiate nessuno, prendetevi sta cacchio di tachipirina, controllatevi la vostra ossigenazione del sangue e poi ritornate a fare quello che facevate prima. Non pianto greco, non c'hai un tumore, cazzo! No, ce l'ha in particolare, ha ragione con la storia della Pellegrini, ragazzi, guardate che la storia della Pellegrini è incredibile, fatto salvo che ognuno può fare quello che vuole, può reagire come vuole, cioè se uno reagisce piangendo, ma scusa ragazzi, ma vogliamo, ma chi è che dovrebbe piangere? La Pellegrini, milionaria giustamente per i suoi meriti, che sta a casa assistita da tutto il mondo possibile immaginabile, o uno sfigato che non trova manco il numero di telefono per chiamare un ASL in una regione o che gli fanno un tampone 4-5 giorni dopo? Dai, su, ma uno non è che piange per la malattia, piange perché non può fare le gare in questo momento. E poi per quanto? Per 10 giorni, per una settimana, per quanto? Intanto la Pellegrini, ma che te piangi? Ma che te piangi? Ma che cosa piangi? Sei in forma, c'hai 1000 medici, non vai a fare lunedì le tue gare a Budapest? E sti cazzi, e sti grandi cazzi. Comunque, solo per farvi notare che ormai dalle mie parti si utilizza la parola parenzo a livello dispregiativo. Cioè, tra noi amici sei un parenzo oppure ho fatto un parenzo è una cosa negativa. Così, volevo farvelo notare. Ciao, David. La zanzara. One, two, three, four. Zanzarosi, visto che siete ancora qui, fatevi sentire. chiamate l'824-0024 o whatsappate il 393-7171-701. Non negateci un po' di sano qualunquismo. Cioè adesso fanno il coprifuoco, io c'ho una sfiga ragazzi, prima non ho visto la compagna per 3 mesi perché non vivo con lei, adesso io con il lavoro, lei con il lavoro, ci vediamo sempre dopo le 10, cioè se tu mi fai il coprifuoco alle 10 io non trombo più, non trombo più, ma io vado a trombare a casa di Parenzo che continua a rompere i coglioni e poi la gente lo ascolta e fanno i lockdown. Però vorrei dire a Parenzo che non è che se tutti vanno in lockdown abbiamo la casa di 200 metri quadri al Parioli, c'è gente che vive in gruppi appartamento dove sta in tre, tre sconosciuti in una stanza e tre nell'altra, quindi sei dentro un appartamento di 80 metri quadri, cazzo, cioè, ma questo che cos'è, gode per queste cose, c'è gente che vive in un monolocale con 4 figli, ma perché non si vede, perché non si vergogna a dire di questa storia del lockdown, proprio quella merda di Parenzo, proprio un ricco, che poi i genitori, la famiglia, perché sono quelli, sarebbe un barbone. No, risponderà dopo, quando il dio della Marchetta, quando il dio della Marchetta avrà finito, no, di distribuire le sue prebende, quando il dio della Marchetta. Ma a proposito della Marchetta, sì. A proposito di Marchette, lo ricordiamo cosa succede domani? No, no, dopo, dopo, io faccio Marchette dopo. In modo okay, diverso. Okay, Montesano, perfetto, Montesano, perfetto. Bill Gates. Senti Montesano su Bill Gates. Montesano, Montesano. Aspetta, aspetta. Per pomata. Così aiutiamo anche a debellare questo maledetto virus che c'è, purtroppo c'è, anzi fu, c'è sta, è l'unico virus che ci ha avuto alla presentazione, Bill Gates ne parlò qualche anno fa, ci vedrete che nel 2020 avrete un'epidemia, mamma mia, su Bill Gates. Cioè, Montesano è uno di quelli che è negazionista al massimo, parla di nuovo ordine mondiale o di poteri che hanno creato il virus per spargere terrore, eccetera, eccetera, però poi non ha il coraggio di dirlo fino in fondo, allora fa un po' l'ironico, dice Bill Gates ha annunciato anni fa il virus, eccetera, eccetera. Effettivamente disse una volta, credo nel 2018, non so a quando, nel 2015. Disse una cosa generica, disse dai, una cosa su. Generica, dai. Rosario da Catania, vai Rosario, dimmi, Rosario, dimmi, dimmi Rosario. Ciao, dimmi. Beppe, come dimmi, stai? Dimmi, ti stimo. Dimmi, dimmi, dimmi, vai avanti. Niente, poco fa sentivo la discussione sul governatore della Campania e sì, mi sono un pochettino incazzato sentendo il tuo collega come se ce l'aveste con i meridionali, che noi fossimo io ce l'ho. Ha detto che con me, che alla come? Fine i campani, non è i campani vogliono il lockdown, che cazzo dici? Non hai detto no, perché no, la non Campania, ho capito, scusate la Campania io, è quasi rispetto, al terzo allora, mondo mi spiego okay, meglio, chiedo scusa mi spiego meglio, oggi ho sentito un'intervista sempre su Radio 24 in merito al direttore, il presidente dei dirigenti scolastici della Campania. Non me ne frega un cazzo, che vuoi Rosario? Non me ne frega un cazzo di quello dire, che hai insomma, sentito, di quello che non hai sentito. Se sta cosa c'è vuol dire che c'è. Agostino c'è da Napoli, non ho capito un cazzo, Agostino da Napoli, dai. Dai, Gottardo, forza. Gottardo, sei eccomi. Un pezzo ciao, di merda. Ah, come è mai? Un pezzo argomenta. Di perché? Argomenta. Calma, dimmi. Con 600 euro al mese di cassa integrazione vengo a mangiare a Padova da te. Giusto. Lavori in nero. Ma perché? Lavori in nero, perché giusto, Agostino? Lavori in nero. In nero mi scopo a tua sorella, in nero. No, ah, benissimo. Calma. Quale delle tre? Quale delle tre? Sono tutte e tre buone. La più puttana. Ah, ok. No, ma Agostino, dura, non ho capito. Perché gli hai dato del pezzo di merda? Perché gli hai dato del pezzo di merda? Dimmi. Perché vai a lavorare in nero? Vado a lavorare tua sorella in nero. Eccolo, no, ammettilo, abbi il coraggio di ammettere che vai a lavorare in nero e prendi la cassa integrazione, quindi prendi due pezzo redditi, merda, uno in nero di e uno a carico dell'Inps. Dai, ammettilo. Calma, non ho capito. Non ho capito che cos'è che ti ha fatto incazzare, Agostino, non ho capito bene. E allora il governatore qua sta facendo quasi chiusura dappertutto. Adesso si parla anche del coprifuoco alle 10 allora, alle 6 di mattina. Allora qua già ci sta la fame epica, no? Dove bisogna andare ad attingere qualche cosa? E che ne so, rivolgiti nero, a De Luca. Dalla camorra, in nero dalla camorra. Oppure agli strozzini. Avete più merda voi là al nord che noi qua al sud. Dovevo ma certo, ma noi la denunciamo, noi la denunciamo. Per te invece è normale lavorare in nero o lavorare per la camorra, da quello che capisco. Vabbè, detto io lavoro 13-14 ore al giorno. 13-14 ore al giorno. Sei in cassa integrazione, nero. Dovresti lavorare zero. Se lavori 13-14 ore vuol dire che lavori in nero, e vuol dire che ho ragione io, e non devi rompermi i coglioni. Ma quando vai, tu sei uno stronzo, senti a me. Sì, però tu lavori in nero 13-14 ore? No, no, io sto inquadrato. Ah, no. 600 ore di cassa. Ma che dici? Ma se prendi la cassa integrazione, ma tu fai una cosa, dimmi la 2000, ti mando la mia busta paga e quello che ho ricevuto. Sì, ma non ho capito perché gli hai dato il pezzo di merda all'inizio, perché ha detto che perché che vogliono... a noi ci fa bene, ma quando ci cucina a chi fa no, bene? Non è che vi fa bene, non è che vi fa bene, è che per alcuni, come è successo anche nelle imprese del Nord-Est, gente tipo te, prendi la cassa integrazione e poi lavori 13 o 14 vabbè, ore. Ciao, dimmi Agostino, che non stai lavorando in nero. Ciao, dimmi Agostino, che non stai lavorando ciao, in nero, ciao, dai. Ciao. Questi piangono e fottono. Pino da Frosinone, vai Pino, dimmi. Senta, ma io volevo sapere una cosa, ma noi perché ci stiamo preoccupando qua che la gente muore? Cioè, io non ho capito, la gente nasce, cresce e un giorno sa che deve morire. Cioè, ma voi lo sapete che ci sono più... Sì, ma voi lo sapete che ci sono più morti di incidenti stradali? Sì, perché vabbè, non ci dicono la sera... non sono contagiosi, sì, però, non sono contagiosi. Sì, ma voi avete mai sentito parlare di Ausmerzen, della selezione naturale? Ausmerzen. No, aspetta, è interessante questo della selezione naturale. Dunque, secondo te dovremmo prenderci, che è un po' la mia teoria adesso, perché secondo me non si può bloccare più nulla ormai, perché ormai i buoi sono scappati, il tracciamento non si può più fare. A questo punto dovremmo prendercelo tutti. Continuando però a vivere e a campare, dobbiamo prendercelo tutti. Nella maggior parte dei casi dura poco e alla fine chi sopravvive bene, chi non sopravvive amen. Questo è il punto fondamentale. Invece ci rompiamo i coglioni con milioni di protocolli. Ma è d'accordo, però è così, con milioni di protocolli ogni giorno per scassarci la minchia e chissà quali conseguenze economiche ci saranno, per arrivare poi alla fine a che cosa? Per arrivare a che cosa? A crisi economiche, casini. Invece, ragazzi, ci sarà qualcuno che se lo prenderà e morirà e il resto sopravviverà. Ma di che parliamo? Allora, dai. Io volevo dirti di Ausmerzen, la selezione naturale, le pecore zoppe venivano abbattute, non che dobbiamo con questo che vuoi dire? Però che vuoi dire no, io voglio questo? Dire che la gente nel mondo muore e noi andiamo avanti perché produciamo. Non possiamo poi nella vita curare tutti. Ti voglio fare l'esempio della mia azienda, ci stanno handicappati, ci stanno 104, invalidi, allora? lavoratori fragili, tutti quanti che stanno approfittando, ma noi la vera nostra forza è il lavoro. Che senso stanno approfittando? Non ho capito. Come stanno approfittando ad Avellino? Aspetta. Stanno approfittando per questa storia del Covid, Covid, perché dicono che sono lavoratori fragili e quindi devono stare a casa, si fanno i permessi 104 perché c'era nel decreto di conto. Il lavoro è la nostra vera libertà. Il lavoro, se noi non lavoriamo, se noi non produciamo, e dunque che dobbiamo fare? Che dobbiamo fare? Sacrificare? Dobbiamo prenderci il Covid, dobbiamo fare la nostra vita normalmente. La vita deve essere normale, deve continuare. Ma questo è un dibattito interessante, cioè perché poi alla fine molti la pensano così, in Svezia, eccetera, eccetera. Alcune persone pensano davvero queste cose qua. Dobbiamo, secondo me, proteggere le persone più fragili, ma quelle che veramente sono fragili, e gli altri devono continuare a fare una vita normale con tutte le precauzioni, non si può bloccare. Ma chi era lo stronzo che diceva sta cosa a febbraio? Voglio concludere dicendo, noi dobbiamo, basta la sera di dire quanti morti ci stanno, quanti contagiati ci stanno, non lo dobbiamo dire, dobbiamo vivere la nostra vita normalmente, perché questa è la vita, è come nella savana, il leone che è più forte si mangia quell'altro, così la nostra vita è questa, vivere la vita normalmente. È un po' deterministica la cosa. No, ma ragazzi, però la realtà è questa, prendiamoci, alla fine, siccome non si sa bene se ci sarà il vaccino, anche se oggi Burioni dice che è pronto, forse la terza settimana di novembre, certezze non ce ne sono, non c'è un cazzo di certezze, l'unica certezza è quella che questo virus nella maggior parte dei casi non provoca la morte. E allora cazzo, prendiamoci tutti il virus, io non me lo posso prendere apposta. A me rode il culo solamente prendermelo adesso, perché poi per un mese non mi fanno lavorare. Cioè per un mese non mi fanno lavorare nemmeno da casa. Capisci qual è la follia? Non mi faranno lavorare nemmeno da casa. Dunque mi rode il culo per questo, non posso fare la radio, non posso andare via, non posso fare un cazzo. Dunque per questo mi rode il culo. Tu capisci perché mi rode il culo? Però alla fine forse è meglio così, tutti quanti ce lo prendiamo, chi sopravvive bene, chi non sopravvive vaffanculo, questo è il punto. Amen. Tanto un giorno dobbiamo Ma l'importante morire è continuare a produrre, altrimenti poi ci troveremo una terra di morti, ci troveremo tutti pseudo sani, ma una terra di morti intorno. Ma la via di mezzo è che devi andare a fare in culo tu e l'altro marchettaro. Fermi tutti. Ora è ora di avere un sito internet. È ora di vendere i tuoi prodotti online. È ora di farlo da solo. Perché è facile. Perché tu puoi. Con Supersite su aruba.it. Thank you. La Zanzara. Guaggiù, se volete parlare al telefono con la Zanzara da fa l'800240024 oppure se volete mandare un sfaccio i messaggi coppa WhatsApp 393-7171-701. Cruciani, ascolta, ma sto cazzo di nuovo ordine mondiale non hai l'indirizzo, qualcosa? Indaga, perché ci voglio andare a lavorare. Dai, sono cazzetti. Dai, che alla fine siete tutti qua a aspettare il nuovo lockdown. Novembre, un po' di dicembre. Fate come me, mettetevi una pianta di marijuana in casa. Comunque, Cruciani, hai una faccia tosta. Ti presenti da Del Debbio, ti presenti alla Steve, sera da questo Steve, quello che ha la voce da Finocchio lì. Voglio il coro! E dopo sfottarlo in radio, dopo che lo sfotti in radio, fai sentire i suoi spezzettoni e lo critichi, ci vai in televisione a fare il leccaculo. Sì. Hai un bel coraggio, voilà. Ti dirò di più, uno come te, per due lire, parte a vendere il culo, andrebbe anche in una trasmissione di preti a parlare bene della Chiesa. Eh? Vigliacco bastardo Giuda, traditore. Steve, questo si chiama Steve, questo imbecille. Però ha ragione, si lo chiama vendi un Steve. Po' il culo, La si foto del culo la stai vendendo. Ma non c'è dubbio, su questo non c'è dubbio. Cioè, beh, la sto vendendo anche, dicono abbastanza bene, ma insomma, €19 al petto, tutto, 19 euro a botta. Tutto merito del culo, naturalmente. È tornato dal suo marchettificio, ambulante quotidiano. Marchettificio ambulante quotidiano. Lavoro anche questo, lavoro dignitosissimo anche questo. Intervista ai ministri, racconto del paese, convegno dei giovani di Confindustria. E meno male. Il minatore. Aspetta, e meno male che i ministri avevano il contatto con il paese, perché in questi 7-8 mesi da quando è arrivata la prima ondata non hanno fatto praticamente un cazzo. Immuni praticamente una sola, l'applicazione lì, una sola totale. Adesso lo stanno scaricando. Tracciamento. Ma noi dove? Ma gli italiani, tu tra i primi. Tra i primi, non c'è dubbio. E appunto, quindi ma non funziona, a te, io ma non funziona. Tracciamento completamente saltato. Tracciamento completamente saltato. Tamponi, un ginepraio. Uno per fare i tamponi deve avventurarsi da regione a regione in procedure interminabili, che è più facile, che cazzo ne so, più facile farsi trasportare con l'elicottero, come ha fatto Cristiano Ronaldo. Vaccini, ne hai visti qualcuno di vaccini anti-influenzali che dicevano che sarebbe stato importante, eccetera, come dice anche Parenzo? Sì. Impossibile, praticamente. Impossibile. Beh, gli anziani. Nord vuote. Terapie intensive. Ragazzi. Al nord vuote, perché il dato in Veneto è che il 90% delle terapie intensive sono vuote. Ma il che vuol dire? Ma meno male. Il 90%, e chiudiamo tutto per cosa? E chiudiamo tutto per cosa? Perché il 90%. Allora, delle intanto, ragazzi, tanto per sapere, tanto per dire l'odio, no? L'odio, perché uno dice sempre l'odio da una parte e sempre dall'altra. Una professoressa di scienze umane, pensate un po', una professoressa di scienze umane in un liceo di Genova, credo che sia il liceo Pertini di Genova, sulla morte di Iole Santelli, presidente della regione Calabria. Mamma mia, sì. Eccetera. Che c'è da dire? Cos'è morta, poverina? Ma che ma c'è da cosa dire? Detto? Io nulla, ma... figurati. Io nulla. Io ti leggo quello che ha scritto questa qua, che si chiama Paola Castellaro. Paola Castellaro, dei Five Stars, militante Five Stars. Ma militante, ma una vergogna. E vai una mafiosa di meno. Ma speriamo che chiami Silvio, Giorgio, Sergio, eccetera. Questo ha scritto questa signora dei Five Stars. E vai una mafiosa di meno. Speriamo chiami, cioè il cancro, il signore, non so che, il mamma cielo, eccetera. Mia, Silvio, mamma Giorgio, mia. Sergio, eccetera. Questa qua, fino a poco tempo fa, non so se ancora è una attivista del movimento Five Stars, anzi la prima attivista genovese dai tempi degli amici di Beppe Grillo. Beh, ora io vorrei capire da te, vorrei capire da te. No, non c'è niente da capire. No, vorrei capire questa qua, tu che sei molto duro in generale sui fascisti, sui professori fascisti, questa qua è che è professoressa di scienze umane, Andrebbe sospesa dalla scuola, molto semplice, non è che ci sono due pesi pesi e due misure. Se uno dice una coglionata, almeno sospesa, per molto meno hanno almeno sospesa dalla scuola. Almeno ti ricordi quella professoressa che gridava merde, bastarde, schifi ai poliziotti? Quella l'hanno denunciata, l'hanno anche cacciata e l'hanno licenziata. Ma quello è un percorso, quello è un percorso che ci sarà. Intanto il primo provvedimento è sospenderla, cioè non deve più andare in classe, fine. Adesso ci vuole intanto sociale, poi ci vuole il processo, poi ci vuole il processo, ovviamente il processo. Io non so se il processo una mafiosa di meno, i parenti la denunceranno per aver scritto mafiosa sicuramente. Appunto, ma al di in là attesa del della sentenza, in attesa va sospesa, cioè non va più mandata a scuola, questo dico. Professoressa di scienze umane, io vado ai pazzi. Professoressa di scienze umane, scienze umane, sarà stata un'ascoltatrice della Zanzara. Ma sì, ma il dramma è che sarà stata sicuramente un'ascoltatrice di questa latrina a cielo aperto. Sicuro, sicuro. Qualcuno ti deve aver fomentato lì a Confindustria. Qualcuno ti ha fomentato. Cosa ti hanno detto? Cosa ti hanno riferito? Lascia stare, che una delle cose più commentate. Cosa ci dicevano i ministri? Camilla da Roma, vai. Beh, avanti tutto. Guarda, dai. Le aperture di tutti i siti sono l'intervista che ho fatto alla ministra Azzolina poco fa e l'apertura di tutte le agenzie. Diletto dell'Azzolina. Guardate, io se fossi Catania mi ascolta preoccuperei. Ascolta l'intervista che ho fatto invece. Ascolta l'intervista. Ascolta l'intervista. Ascolta l'intervista. Le ho parlato di Casaleggio. Ascolta quello che le ho detto davanti a tutti. Ignorante. Ignorante che vivi in una suite di un albergo, vivi in una sembri uno di quei dittatori sudamericani che vivono nelle suite degli alberghi. Sei un dittatore sudamericano. Che cosa ha detto Sazzolina in sintesi? Però non ci vuole due coglioni così. No, devi mandare l'integrale in ginocchio. Devi mandare, non ho intervisto nessuno in ginocchio. Vai a sentire l'audio. Senti l'audio. Ha detto intanto che De Luca non doveva in alcun modo chiudere a cazzo suo le scuole, che è un atto gravissimo quello che ha fatto. Secondo, che le scuole non chiuderanno. Per lei non chiuderanno. Se lei però lei non ha la competenza diretta. Scuole non devono chiudere. Le scuole non devono chiudere. I sindacati hanno bloccato molte riforme della scuola. Altra notizia. Beh, falla tu l'intervista, invece di occuparti del tuo culo che vendi. Vieni qui, studia. Camilla da Roma. Zitti! Porca puttana! Camilla da Roma. Infatti le scuole potrebbero tranquillamente non chiudere se giovani dai 20 ai 30 anni che sono sobillati e purtroppo rovinati dalle provocazioni di Cruciani. Beh, non esageriamo. È proprio così. Ma nessuno sa da dove vengono tutti questi nuovi contagi. Non lo sa nessuno. Non lo sa nessuno. E molti sono già conteggiati, ma in realtà sono già tra le persone contagiate. Una società che non difende le persone più deboli è una società di merda. Ma chi ha detto che non vanno difesi? Di ieri che ha chiamato di 23 anni che fa la festa quel figlio di papà e dicono non gli frega un cazzo, perché esistono le persone che a 50 anni potrebbero aver avuto un infarto e si prendono il COVID. Potrebbe succedere che esci per strada tu, Camilla, e ti arriva un mattone in testa o fai un incidente. Se non vuoi capire una cosa semplicissima, se non vuoi rischiare un cazzo, vai direttamente al cimitero. È chiaro, se non vuoi rischiare nulla vai al cimitero, rinchiudi. Che lavoro fai, Camilla? Che lavoro fai? Non te lo voglio dire. Che lavoro fai? Sono una partita IVA. Sei una partita IVA di che cosa? In quale settore? Scrivo delle sceneggiature, sono sceneggiatrice. Ma mi scusa, che cosa c'entra questo? Scrivo sceneggiature. Lavora con l'intelletto, a differenza tua che lavori col culo. Se te lo posso dire a questo punto. Cruciani, mi ascolti un secondo? Forse quello che te non hai capito. Ma non ho capito cos'hai da contestare poi. Ma non capisco qual è la contestazione. Dimmi. La contestazione situazione, beh, è il tuo atteggiamento nei confronti della pandemia, che poi è altalenante, certo, perché poi ti caghi sotto appena a un certo punto. Quindi, però, è il tuo atteggiamento, ti giuro, è la cosa di te che mi fa incazzare proprio in assoluto. Ma qual è? Non ho capito, qual è? Non ho capito. È il fatto che tu non voglia capire la cosa più elementare della terra, e cioè che è vero che la stragrande maggioranza delle persone che si ammala vive un'influenza, è vero che ce ne sono la stragrande maggioranza, nemmeno ai sintomi, ma quella minoranza che finisce in ospedale è sufficiente per intasare il sistema sanitario italiano. Cioè, è una cosa, questo è un altro discorso. Dai. Joseph da Bari, questo è un altro discorso, ma torniamo al punto iniziale. Torniamo al punto iniziale, che non hanno fatto un cazzo cosa faresti? Per aumentare tu le cose. Cosa faresti? A questo cosa punto faresti te, l'ho oggi? Detto, te lo dico, te lo posso dire? No, come la voglio Svezia, sapere cosa faresti liberi, oggi. Tutti liberi, chi lo prende, chi lo prende e sopravvive. Irresponsabile. Chi lo prende muore. Joseph da Bari. Ma sei incredibile. È una vergogna quello che dici, Joseph, sei un pazzo. Lo so, sarà un pazzo, ma è così, in Svezia fanno così. Sì, cioè, salvo che invece tu ti curi, invece tu ti proteggi, tu non vai in giro. Ma che la differenza è che tu mandi le persone in giro, ho detto, la gente tu mandi deve le persone in giro, ma tu ti fai i cazzi tuoi protetto con i tuoi medici, che puoi chiamare direttamente i tamponi che puoi farti direttamente. Ma non ho capito ancora. Io fossi lui non andrei a Abano domani a fare una cosa, una presentazione di un libro, perché è inutile, non è un'attività fondamentale. Vivere è inutile secondo te? Sì, vivere è inutile. No, ma sai quante cose vorrei fare anch'io? Joseph, dimmi Joseph. Dimmi. Ragazzi, ma scusate, io vi voglio... Avete una calcolatrice lì in studio? Una semplice calcolatrice. Allora, senza saper né leggere né scrivere, se vai sul sito del Ministero della Salute, ci sono i morti per chi diciamo è morto per coronavirus con 0 patologie, 1 patologia, 2 patologie, perfetto. Vabbè. I morti di coronavirus con 0 patologie sono stati un mese fa 1350 o 1400 più o meno, metti anche che fossero 1500. Allora, se tu fai un piccolo calcolo, io non so né leggere né scrivere. No, guarda che la media, io ti dico su un numero ancora piccolo di casi test, diciamo, chiamiamoli così, la media è 80-82 anni con 3 patologie, con 1, 2 o 3 patologie, sì, i morti. Okay, però, quello è. Aspetta, Beppe, 1500 con 0 patologie, che sono 1500 persone. Su 62 milioni di abitanti, ma la media è la percentuale di morte dello 0,002. Cioè, io morire per una puntura gape è forse 100 volte più pericoloso. Allora, che cosa ma questo mi serve? È pazzo, ma cosa vuol dire? No, ma al di là, del vaccino, il punto è questo: 0,02. Si può mettere in ginocchio ormai, dopo che abbiamo già sperimentato 2-3 mesi ed è successo quello che è successo? Si può ancora mettere in ginocchio un paese chiudendo i bar? Certo. Se uno chiude qualche cosa, se uno chiude, uno chiude qualche cosa, tu devi dare i quattrini alle persone, devi dare i soldi, ma non come hanno fatto finora, zitti tutti, non come hanno fatto finora. Ora, cazzo di cane, promettendo e non dando un cazzo, devi chiudere, ti devi far dare 2 settimane. Quanto incassi in 2 settimane? Io ti do i soldi contanti, altrimenti non mi devi rompere i coglioni per una cosa che ha una percentuale di morti così bassa, chiaro? Se tu chiudi, dai i quattrini, porca la gran puttana. Se tu chiudi per 3 settimane un bar, lui ti presenta il conto e tu sull'unghia gli dai i soldi, perché quello deve pagare le bollette, deve pagare l'affitto, deve pagare tutto, porca la troia. Mettiamo che sia giusto chiudere per 3 settimane i bar dopo le 21. Mettiamo che sia giusto, io non lo so, non lo sa nessuno che è giusto. David, non lo sa nessuno. Ma io non dico di chiudere tutto, dico che la tua è imprudenza assoluta, ma di uno che ha i canali per avere tutto, perché noi abbiamo i canali per avere tutto. Devi dare i soldi a questa gente, devi dare i quattrini a queste persone, devi dargli i soldi sull'unghia, non fra 3 settimane, tra 4 settimane, dopo un mese, aspettando l'Europa. Ma chi sa, ma non c'è deve dare questo i quattrini, certo. Punto. Ma e noi siamo persone privilegiate. Se tu non lo dici, sbagli. Siamo molto privilegiati, perché abbiamo un problema, chiamiamo un medico e quello subito ma ti risponde, perché ha il tuo culo sui manifesti. Appunto. Per le aziende professionisti il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it. La Zanzara. A Amico mio, a pensare male si fa peccato, ma spesso ci si azzecca, dice il proverbio. Giuseppe, fammi capire una cosa, Giuseppe. Senta. Hai della vigna dei tamponi, c'è code, delle teste di cazzo che vanno a vedere se hanno il raffreddore o meno, o se sono portatori sani del raffreddore. E i 660.000, 150.000, 120.000, ora oggi saranno sicuramente 190.000 con 10.000 rotti contagiati. A chi minchia glieli fanno questi tamponi, Giuseppe? Italiani! A co cazzo ci fanno questi minchia tamponi? Se ci sono le file chilometriche per fare i tamponi. Ma non è che si inventano i tamponi. Italiani, ma ci avete pensato mai a questa variante che i tamponi fanno finta di farli e dichiarano quello che minchia vogliono e ora chiudono di nuovo tutto e ne fanno fallire per una volta e per sempre? Italiani, cazzo! Prendetevela in culo allegramente, allora, che volete che vi dica? Che volete che vi dica? La matematica non è un'opinione, questi tamponi a cui minchia ci fanno, Giuseppe? Non lo so, amico mio, Grillino, non sono così... Non sono così complottista come te su questa cosa qua. Non sono così complottista. Sei diventato amico del Grillino pure. Sì, sì. Ho un certo affetto per il Grillino, per l'ex Grillino palermitano. Più sono matti, più ovviamente fanno il tuo sporco gioco. Sporco gioco. Adesso perché sei mia Confindustria devi tirare merda sul sottoscritto su questa emissione radiofonica, cosa che peraltro fai anche quotidianamente. Lo faccio. Ah, no, caro, di questo non mi puoi accusare. Devi farti sentire da qualcuno lì per pulirti la coscienza. No, io lo faccio, per pulirti lo faccio quotidianamente. Quotidianamente lo faccio di tirare merda sulla trasmissione alla quale collaboro. Esatto, lo faccio quotidianamente. Esatto. Non vorrei si dicesse che lo faccio solo oggi. Lo faccio dal giorno della fondazione. Qualcuno sostiene che l'aperitivo, la cena fuori e la birretta di gruppo non sono diritti inalienabili. Tanto meno libertà incomprimibili. Bisogna avere il coraggio di dire che non c'è spazio ora per il divertimento e lo svago. Esatto. Dove sono ora quelli che quest'estate dicevano con supponenza che era finita l'epidemia? Questo è un altro ragionamento. Si parte da qui, dal dire che l'aperitivo, la cena fuori e la birretta. Aspetta, si parte da qui, cioè dal dire che l'aperitivo, la cena fuori, la birretta di gruppo o la movida o come volete chiamarla, non sono fondamentali, per arrivare a dire che correre non è fondamentale, per arrivare a dire che andare al cinema non è fondamentale, per arrivare a dire che presentare un libro magari non è fondamentale, per arrivare a dire che magari devi andare fare a scelte. Scuola, beh sì, però si può fare, no, come io penso tra l'altro, si può fare e per evitare quello. In collegamento, ragazzi, quando uno dice non è fondamentale fai la scuola birretta. In collegamento, ma scusa, aspetta, fai la scuola in collegamento giù e attimo, presenti giù, il libro? Giù un attimo, se uno comincia a dire che la birretta non è fondamentale, arriva a dire che la scopata non è fondamentale, sì, che vedere le altre persone, chi lo decide? Decideranno ma loro, chi decideranno cazzo loro, lo decide governo, cosa è fondamentale o no? Porca quante puttana. Volte potrei scopare. Incredibile, incredibile. Siamo arrivati a rappresentanti delle istituzioni che così. Ti dicono, a virologi molto ascoltati, che ti dicono che non puoi baciare uno sconosciuto, che è meglio non baciarlo e dunque devi essere fare terrorizzato. Parenzo stesso sostiene alla fine che lui, una persona sconosciuta, al di là della sua situazione ma sentimentale, non lo farei. Io non lo bacerebbe adesso. Ma non tu lo metto per decreto, pazzo. Ma non lo farei. Ma grazie al cazzo che non lo metti per decreto. Ma la cosa che ti dico è che invece, se dovessi scegliere tra presentare un libro o fare un mio spettacolo teatrale e tenere le scuole aperte, dico rinuncio alla birretta e invece se tu chiudi il calcio, se tu chiudi alcune cose, eviti che si blocchino i servizi fondamentali. Allora, posso dire una cosa sulla Lombardia? La Lombardia ha deciso che i bar dalle 18 del lunedì, tra l'altro, come se da qui a lunedì diciamo il virus in qualche modo tempo, no? I bar dalle se la situazione è urgente uno lo fa subito, non da lunedì. Chiaro, che cazzo vuol dire da lunedì? Beh, è ridicolo, no? Certo. Perché tu ci andresti stasera in una situazione come siamo, i bar dalle 18 quindi potranno restare aperti solo con il servizio al tavolo dalle 18. In ogni caso per tutti chiusura alle 21, cioè chi non ha il servizio al tavolo, cioè i bar quelli sfigati senza servizio al tavolo chiusi, non si può entrare in un bar dalle 18, come se prima il virus fosse qualcosa così di generico che non fa male, eccetera. Tutti chiusi dalle 21. Ora ragazzi, ma cioè, è incredibile questa cosa qua. E ristoranti aperti fino alle 23. Cioè, questo significa ammazzare una marea di attività economiche per 3 settimane. Ma chi cazzo glieli dà i soldi a questi? Intanto Meluzzi parla di adrenocromo. Questo è molto interessante, ragazzi, che ci dobbiamo un po' divertire ogni tanto, no? Oltre che litigare su queste cose. Meluzzi e l'adrenocromo. Senti. cioè, esistono sette sataniche, queste sette sataniche siano in no. azione è una cosa no. che i grandi esorcisti e anche i criminologi hanno sempre saputo. Penso dei bambini di Satana a Manson, ma anche alle grandi testimonianze di grandi esorcisti come Padre Amort, che ci siano persone che scelgono il principio personalizzato del male per dare una voce, dare una forma alle proprie perversioni sessuali, è una cosa che si sa. Vabbè, dice che esistono le sette sataniche, però attenzione, l'adrenocromo che si è iniettato, ecco, senti, senti questa cosa. Ci sono poi delle teorie che effettivamente meritano di essere approfondite e che non hanno ancora piena prova e che parlano dell'uso di sostanze come l'adrenocromo, che sarebbe un estratto di tipo neuroormonale tratto dal sangue adrenalinico, dalle ghiandole surrenali, dalla midollare del surrene di persone terrorizzate e che inoculato darebbe una sorta di scarica vitale di tipo drogastico. Dico che però anche la questione dell'adrenocrome, anche la questione delle sevizie è qualcosa che abbiamo visto documentato in delitti in cui, per esempio, la immensa quantità di scomparsa di bambini nel mondo non trova spiegazione se non con un utilizzo del corpo di questi bambini o, nella peggiore delle ipotesi, da parte di chirurghi irresponsabili che estraggono organi per trapiantarli. Sul commercio di organi estratti c'è invece una dovizia di dati delle polizie internazionali, non soltanto in Brasile, non soltanto in Africa, non soltanto tra bambini e donne commerciati dalla mafia nigeriana. C'è stata un'indagine che si è spinta fino in Italia su questo, ma forse anche su questioni ancora più diaboliche, ancora più sottili, che non è l'uso di organi, anche se non ci può essere una graduatoria dell'orrore, ma l'estrazione di sostanze ormonali ha presunto significato vitalizzante dal sangue di bambini terrorizzati. Poi chiama in causa Epstein e il principe Andrea, fanno parte di elite che coprono tutto. Innanzitutto smascherando i santuari delle elite e dell'establishment che coprono tutto questo. Voi pensate alla vicenda Epstein e alla sua inquietante scomparsa di cui non sappiamo granché, o alle vicende di Maxwell e della figlia che era un po' la maîtresse di questo smistamento di bambini e di minori, o pensate appunto alle Isole Vergini con una linea aerea che doveva portare VIP, tra cui il principe Andrea, figlio della regina d'Inghilterra. Quindi parliamo di elite ad altissimo livello. So se è Andriano da Roma o cosa del genere. Andriano? Adriano. Adriano, dimmi. E niente, volevo dirti, sono d'accordo sul fatto che libera tutti, quello che diceva quell'altro ascoltatore, anche che tu sostieni. Tanto questi non ho capito, scusami Adriano, non ho capito, mettiti meglio col telefono, dimmi. Dicevo, sono d'accordo per il libera tutti, il governo, lo Stato non deve più occuparsi di questa cazzo di malattia, tanto non sono in grado e non sono capaci. Ci lasciassero fare, che facciamo da soli? Cioè, in che modo, scusa, spiegami. Basta, chi deve morire morirà, chi ce la farà, appunto, ognuno farà come vuole, tanto diversamente non sono in grado di fare nulla, quello che dovevano fare, ossia potenziare gli ospedali, non l'hanno fatto, quindi... No, ma tra l'altro, scusami, tra l'altro, io lo dico a Parenzo, tra l'altro non è mica detto che se uno chiude adesso o qualcuno sostiene meglio un coprifuoco adesso che un lockdown domani, come se ci fosse una scelta da fare, cioè non è mica detto che poi fra sei mesi la cosa non torni. Ah, beh, certo, cioè di che nessuno sa un cazzo, gente che annuncia vaccini senza nessuna certezza. La terapia che diventa sempre di più efficace, la terapia per curare il Covid, ma non si può crepare di altre cose, non si può morire di altro, c'è gente che morirà, c'è gente che verrà col forcone sotto Piazza Indipendenza ad aspettarti. Ma la tua col soluzione forcone. Qual è? Ormai la tua mia soluzione è la Svezia, liberi tutti. Leader di tutto il mondo, i leader di tutto il mondo, anche il tuo amico Trump, anche il tuo amico Trump e il tuo amico Boris Johnson, che inizialmente faceva il ganassa come te in giro, me ne frego, me ne frego, il Covid fa il ganassa, si è preso il virus e ora sta chiudendo tutto, il liberale libertario Boris Johnson. Allora fermi tutti, grande ritorno alla Zanzara. Parenzo, calma, stai un attimo in disparte, poi di quello che ti pare. Sì, Alessandro, sì, Meluzzi, buonasera, applausi, buonasera, applausi, voi, applausi, applausi. Perché applausi però? Stai perché zitto, devi dire applausi? Stai zitto, perché applausi? Devi dire applausi? Stai zitto, ma non voglio litigare. Giù il microfono da Confindustria, giù il microfono da Confindustria, collegato da Confindustria, peraltro, caro Meluzzi, Confindustria che potrebbe essere tra i grandi poteri di questo paese, no? Se potremmo anche dirlo, no? Cioè, questo lo possiamo dire tranquillamente. Lo è sicuramente. Lo è sicuramente. Allora, io voglio capire da te una cosa, caro Alessandro. Io sono convinto del fatto che ormai non c'è più niente da fare, che ormai i buoi sono scappati, che ormai il virus sì, non è più controllabile, perché non è più tracciabile nulla, e a questo punto bisogna fare una scelta. È inutile arrabattarci con piccole chiusure, 21, i bar, le cose, mettendo in ginocchio... Sono completamente d'accordo. E mettendo in ginocchio un intero paese, e no, intere categorie, perché tu o chiudi e dai soldi immediatamente, fornisci quattrini immediati, cosa che nessuno è stato in grado di fare fino adesso, oppure devi far circolare questo virus, o no, o sbaglio? Allora, ci sono tre soluzioni razionali e bisogna che democraticamente si scelga una di queste tre. La più efficace di tutte è la soluzione cinese. Cioè, la soluzione cinese è una soluzione nella quale ci sono i capiscala scelti dal partito, che entrano negli appartamenti, fanno i test obbligatoriamente, sì, garantiscono un mappaggio assoluto, le persone positive vengono tradotte fuori dalle loro case, portate in luoghi idonei. Ma non si può fare, diciamo. Ma non lo so se non si può fare. Comunque, questa, diciamo, è la via cinese che dal punto di vista virologico sembra avere dei risultati, dal punto di vista economico anche, perché lì non c'è un'economia di mercato, ma c'è sì, un capitalismo monopolistico di Stato. Vabbè, la seconda qual è? La seconda soluzione è quella invece del lockdown totale. Questa è un'ottima soluzione, perché secondo me non è da scartarsi, nel senso che fare un lockdown totale immediatamente consentirebbe di fare precipitare completamente tutta l'economia, produrre una catastrofe complessiva, renderebbe risibile le 9 milioni di cartelle dell'Agenzia delle Entrate che sono state mandate. Cioè tu ti auspichi, questo lo dici ironicamente, non ho capito? No, potrebbe essere una soluzione, perché in certi tipi di malattie allungare l'agonia è peggio. Quindi se si deve andare verso la catastrofe socio-economica, prima ci si arriva, prima se ne Tu dici 3 settimane, un mese, cioè catastrofe... Ritengo molto di più, ritengo 2 settimane... Cioè minimo, dice Crisanti, dice minimo 3 settimane per avere qualche effetto. Non dunque... basta, 3 settimane siamo stati, direi da adesso all'inizio del prossimo anno. E la terza? È un lockdown. La terza soluzione invece è quella che dici tu. Cioè lasciare il virus libero di circolare, curare gli ammalati e vedere... Tutto il resto sono pannicelli caldi, diciamo la verità. Tutto il resto sono ipocrisie. Sono, ma sono cose piccole, eccetera. Mi senti, ma quanto... Parenzo, che dici su queste cose che ha detto Meluzzi? Non ho capito. Che ha detto? Sì, ha perfettamente ragione. Certo. Cioè, su che cosa ha perfettamente ragione? Non ho capito. Sì, su tutto. Mi pare un'analisi lucida, perfetta, un'analisi di una persona che è molto... No, ma, sì, ma ha detto... Tre stronzate! No. Tre stronzate! Giù, voglio chiedere un'altra cosa a Meluzzi, giù un attimo. Allora, sì, la cosa, io ti ho sentito parlare dell'adrenocromo, di questa teoria dei potenti della Terra. Tu un po' ci credi, un po' no, ma in realtà ci credi. Ma sì, come tutti. So. Però tu credi davvero... Che in America, devo dire che in America ha smascherato una rete mostruosa, l'FBI. Però tu credi veramente, sì, di pedofilia, d'accordo. Però tu credi veramente che i bambini vengano rapiti e il loro sangue venga utilizzato? No, posso dire che cos'è l'adrenocromo? L'adrenocromo è una sostanza derivata dall'adrenalina midollare che viene trattata e viene usata per la cura dell'epilessia e produce degli effetti psicodislettici. Questo è. Questa roba viene estratta da materiale umano. Da quale tu pensi veramente che alcuni potenti della Terra, progressisti in particolare... No. Io mi sono limitato a veicolare una cosa che fa parte di una narrazione che nel mondo trampiano... Ho capito, però l'hai dato quasi per scontato. Non ho ragione per confermarlo, ma non ho neanche ragione per escluderlo. Anzi, direi che da un certo punto di vista è un'ipotesi, tra le tante ipotesi plausibili... Addirittura, ma plausibile cosa? Scusa, cosa è plausibile? Ma è plausibile il fatto che venga estratto dell'adrenocromo da materiale umano e venga utilizzato. Tutto ma qua. Da chi? Dici da chi? Questo materiale più è giovanile meglio è, più viene utilizzato. È come il mercato degli organi di minori, come gli organi che vengono portati. Cioè tu dici che c'è l'elite, cioè, diciamo la verità, tu pensi che ci sia dietro diciamo il terrorismo della pandemia un nuovo ordine mondiale che ci guadagna, questo l'hai detto più volte, esiste un nuovo ordine? Questo c'è sicuramente, cioè, un nuovo ordine mondiale che dietro la pandemia ci guadagna è nelle cose dell'economia. Tu pensi soltanto che i vari Bezos di Amazon, i vari personaggi hanno aumentato il loro capitale del 30% durante la pandemia. Questo lo dicono gli indicatori economici e non l'hanno detto anche loro. Capito, Davide? Cioè, c'è dietro un nuovo ordine mondiale che sfrutta la pandemia. Sono persone che hanno aumentato il loro capitale del 30%. Il delirio è una cosa che andrebbe curata. Il delirio è una cosa che andrebbe curata. Ho detto una cosa: non è una tesi, è una tesi in campo negli ospedali psichiatrici. Ma non è lì vero. Dentro ma è una tesi in campo. Non è vero. Perché dice delle se dicesse cose razionali, Amazon ha aumentato i suoi profitti. E quindi cosa vuol dire? E quindi cosa vuol dire? Che ha aumentato i profitti, e quindi che è un complotto. È un'azienda che fa. Siccome Truciani mi ha chiesto se c'è qualcuno che si è avvantaggiato, ho detto che ce ne sono molti che sono avvantaggiati. Sì, però andiamo oltre, scusami, tu hai detto esplicitamente in diverse interviste, Alessandro, hai detto esplicitamente che dietro questo virus e soprattutto c'è la Cina, senza ombra di dubbio, infatti lo chiamo il virus cinese. È il virus cinese perché l'unica economia che è uscita rafforzata, potenziata dal punto economico, geopolitico, è la Cina, senza ombra di dubbio. Però scusami un attimo, dietro la Cina ci sono gli alleati della Cina. E questi mondi di cui stiamo parlando, cioè i sostenitori del globalismo mercantilista, pseudoliberista esasperato, sono gli stessi che ce ne sono. Ma adesso tu credi alla pericolosità di questa roba o no? Tu personalmente pensi che sia pericoloso sto Covid? Non sono in grado di dire se i cinesi abbiano sguinzagliato, se i cinesi abbiano programmato o se gli sia fuggito. Certo, sono gli unici che se ne sono avvantaggiati. Sì, ho capito, ma tu posso dire solo una cosa senza urlare, gli dico una cosa. Il delirio, senza urlare, senza offendere nessuno. Il delirio nel quale incorre l'ottimo Meluzzi è questo: quello di mettere insieme dati e affastellarli tutti. La Cina cresce e ci guadagna, secondo lui, dalla pandemia. È vero, è l'unico paese del mondo che cresce. Perché ne è quasi uscito. Vabbè, allora... Poi dice Bill Gates, poi dice i bambini di Satana, poi dice i Rothschild. Metti insieme tutte puttanate che non hanno alcun riferimento l'uno con l'altro. Come si fanno le indagini criminologiche? Ah, se le fai così siamo fottuti. Se le indagini criminologiche le fai così, fai la fine dell'ispettor Clouseau, tu. Altro che fai la fine dell'ispettor Clouseau. Io sono abituato, sono abituato a non confondere il post hoc con il propter hoc, cioè il dopo una cosa ma a causa di una cosa. Ma per esempio ci sono molte cose in questa vicenda del virus che hanno a che fare non solo col dopo una cosa, ma a causa di una cosa. Nei modi, nelle forme con cui il virus ha circolato, nei modi, nelle forme che vuoi con dire, cui che vuoi dire con questa reazioni. Cosa? Che vuoi dire? No, voglio dire soltanto che ha ragione chi dice che questo è un vero reset. Siccome ci sono interi mondi. Ma c'è qualcuno che lo guida, cioè per esempio il fatto che ci vogliono guidare nei comportamenti individuali, no? Tu hai parlato anche di sesso. Ci sono molti che lo guidano. Ti faccio un esempio, perché io sono un acerrimo sostenitore della famiglia, perché ritengo che la famiglia sia una buona cosa, non sia una cattiva cosa. Oggi, se tu guardi anche le pubblicazioni che stanno circolando, i messaggi la prima cosa che viene vantata come una grande qualità morale, umana, virologica, microbiologica, è il vivere soli. Perché la famiglia è il primo luogo in cui avvengono i contagi. Vabbè, questo è vero. Accetta, questo... Quindi è un'ottima cosa. Cioè, tu dici che c'è qualcuno che vuole qualcuno vuole disgregare la famiglia. Non siano a casa con i loro genitori, ma rimangano, che so, in un nido di Stato come quelli cinesi. Oppure la cosa migliore è che nonni non incontrino più i loro figli. Che le famiglie si dividano. Allora, tutto questo evidentemente è in parte un risultato di una constatazione empirica. Però conviene a qualcuno. Di un'ideologia che si vuole spingere. D'altra parte mi sono anche sempre arrabbiato nel mio ambito, quello criminologico, quando ho sempre sentito dire frasi del tipo la famiglia uccide più della mafia. Il che dal punto di vista dei numeri è vero, ma nella realtà non è vero. E allora è chiaro che queste cose, come dire, non sono un confondere post hoc con il propter hoc, ma è un modo per mettere insieme dei dati. Scusa, la mascherina non serve un cazzo, secondo te la mascherina regia, Se poi ci sia un'unica regia, questo non è possibile, ovviamente ci sono tante regie concentriche, tanti interessi, però tu credi a questo nuovo, convergono nell'ottenere un unico risultato. Dunque tu però credi in questo nuovo ordine mondiale, questo ci credi? Sicuramente, c'è chi ci sta lavorando molto alacremente, molto bene, per distruggere cosa? La famiglia e che cosa? Devo dire in maniera vincente, cioè per distruggere cosa? La famiglia? Per distruggere le sovranità nazionali, le democrazie, avere un'unica cabina di regia della finanza, della tecnocrazia scientifica e della comunicazione ed esemplificare il mondo. Ma il virus, ci credi o no? Questa elite abbia ragione. Ma ci credi o no nel virus? Può darsi che pensare di governare 9 miliardi di uomini con la democrazia sia una follia. E quindi può darsi che sia meglio avere 10 persone che decidono per tutti, che fanno, come dire, ma per esempio, ho capito benissimo. Ma la mascherina per te è una follia o no? La mascherina è semplicemente inutile, cioè la mascherina c'è da trattenere qualche sputo, ma fermare il virus con la mascherina è come pensare di fermare la puzza delle scoregge con i pantaloni. anche perché le molecole che portano nel sorrente sono molto più grandi del virus. Quindi io ti dico, io sono talmente persuaso che il virus esista che io, per esempio, l'ho già detto, l'ho dichiarato mille volte, non sono stato il primo a denunciare la pericolosità, ma tutt'oggi sono tornato da Roma e da Rimini, dove visito e lavoro, con la macchina, perché non prendo né i Frecciarossa né gli aerei, perché sono sicuro che non sono sicuro, però, dal punto di vista dei sistemi di reazione. Però, nonostante questo, dici che... dico che andare con la mascherina sul Frecciarossa è una stupidaggine, perché il Frecciarossa è pieno di virus. Ma io ti dico, in tutto questo, per esempio... Se sei in uno scompartimento, c'è qualcuno, come dire, che è portatore del virus, non è certo la mascherina che lo ferma. Ma questo lo dobbiamo dire, l'ultimo dei medici. Ma scusami, ma te l'hanno spiegato tutti che se stai distante hai una mascherina FP2 o FP3 e stai lontano, hai meno possibilità di prenderlo, perché dipende dalla carica virale che quella persona ha. Il modo migliore che ho per non prendere è di non prendere il Frecciarossa. Comunque, senti, mettersi a parlare con uno così è come mettersi a parlare con lo zio Paperone, cioè, perché è di una tale imbecillità nel mettere insieme dati che non c'entrano nulla l'uno con l'altro, che proprio dal punto di vista di reazione di questi mezzi di trasporto, anche ingegnere sei, pure ingegnere, quanto c'entra in tutto questo? Ma che c'entra Bill Gates con la Cina? Che ci sono in quella povera gente che prende i mezzi di trasporto al mattino, capito, per pendolari, e vai a vedere cosa c'è nell'aria ma di quello certo, infatti vanno diminuite le persone che viaggiano su quei mezzi, andate a vedere cosa c'è lì dentro. Io non ci salirei neanche morto, perché per fortuna sono quasi pensionato, ma penso alle povere persone che al mattino devono prendere un mezzo per pendolare, perché lì si contagiano, poi vanno a casa, questo poi contagiano il nostro, ma non ho capito, non sembra che non si può fermare, ma tu da una parte non credi nella pericolosità del virus e dici tutto che è tutto il suo contrario, ho detto soltanto che questo è un virus che ha un'incidenza di mortalità al di sotto dei 65 anni dello 0,05%, quindi sto dicendo che è una pandemia che si può fronteggiare con la clinica, hai capito? Cioè con il cortisone, ma con se le posti farina, sono con in effetti, ma scusami, e tutto il resto dice tutta propaganda per far guadagnare delle persone. Tutto il resto è ingegneria sociale. Ciao Alessandro, ciao. La Zanzara. Ora è ora di avere un sito internet. È ora di vendere i tuoi prodotti online. È ora di farlo da solo. Perché è facile. Perché tu puoi. Con Supersite. Su Aruba.it. Se uno come Vassallo viene a rompere le scatole a me e alle mie ragazze quando siamo a caccia o a pesca, lo appendiamo a un albero, lo scuoiamo vivo e lo lasciamo ancora vivo in pasto ai corvi. La Martani ci vuole far credere che non fa sesso a chi vuole darla a bere. Una cantante che non tromba è come un turista giapponese che non fa fotografie. Allora ragazzi, ieri è stata la giornata dei grandi divi dello sport italiano colpiti dal coronavirus. Signor Valentino Rossi, ma anche la signora Pellegrini in lacrime. Io non ho nulla contro Pellegrini, per carità, non do giudizi su nessuno. Perché fa paura questa cosa, fa paura. Cioè... Sta tenendo un diario, stamattina aveva il mal di testa e poi le è anche passato. Che roba è? Beh, guarda, ti assicuro che qualcuno è stato veramente molto molto ma male. Quella volta che la Pellegrini si rompe una gamba. Cioè, voi sembrate fare? due ganassa, che non hanno paura di niente. La paura è normale che ci sia. Io ad esempio non è che ho paura, lavoro, vado ai convegni, faccio la mia vita. Sai qual è la differenza tra me e la Pellegrini? Che io l'età della Pellegrini avevo già avuto 15 operazioni in anestesia totale. Ho capito, ma che vuol dire? La vita è fatta anche della sofferenza, ragazzi. E non puoi piangere per una puttanata, per un mal di testa. Ma alcune cose sono evitabili. Piange per un mal di testa. Alcune cose sono... Ma perché intervieni sul dolore degli altri? E per una gara del cazzo da 1000 milionaria per, un per una gara del cazzo che le sfuma. Ecco l'odio sociale. Ecco l'odio sociale. Ecco l'odio sociale. Cosa deve fare? Uno che incassa integrazione con quattro figli, cosa deve fare? Ma dai. Ma perché il dolore della. Perché non puoi capire anche il dolore della Pellegrini? La Pellegrini, no, non lo capisco. È una persona privilegiata e deve rendersi conto del. Ma la malattia è uguale per tutti, che vuol dire? Ma la malattia è uguale per tutti. Non è uguale per tutti. Il dolore non è uguale per tutti. Ma come no? È molto meglio piangere a casa della Pellegrini che piangere a casa di uno sotto sfratto. Bene, d'accordo, e quelle lacrime sono. Ma questo siamo d'accordo, ma per carità. Sono irrispettose verso il dolore vero. Ma che c'entra? Fa il pauperista da quattro soldi. Il pauperista dall'albergo. Dall'albergo. No, no, è il pianto di una ragazzina viziata. Quello è il pianto di una ragazzina viziata. Ma vive. Ma lui vive in un albergo come un nababbo sudamericano e un dittatore. Vive in un albergo come quei dittatori grassi, come quei dittatori. Io ho fatto la gavetta, caro mio. Quale gavetta? Ma quale gavetta? Buonasera a tutti. Scusate la mia faccia, ma ho appena ricevuto una brutta notizia. Oggi pomeriggio ho fatto il tampone e l'esito è positivo. Quindi sono positivo al Covid. Mi dispiace un sacco perché lunedì dovevo partire per l'ISL a Budapest. Non so se ridere o piangere, anche se, come si può vedere, ho pianto fino adesso. Come al solito Daniela Martani con noi, eccoci no, qui. No, ma chiedi scusa, qui. Però Gottardo, chieda scusa alla Pellegrini, perché il suo dolore va capito. Lei dice mi dispiace che non posso fare le mie attività, non posso il dolore di una persona che deve ma mica solo per quello è addolorata. Ma che c'entra? Perché non può fare le sue attività normali, è un dolore comprensibile. Zlatan Ibrahimovic, non si è mica messo a piangere come una mammoletta. Ma cosa? Ma le persone, ma che vuol dire? Martani su questo, bello questo scontro. Ma Martani, vai. Che ne sa? Ma che ne sa? Non è né un campione, è una disperata, una spaccapata di casa. Che ne sa di sta roba? Ancora, senti, una sciroccata. Tu sei un miracolato, lecchino. È una sciroccata, sì, lavori soltanto sì, per governo. Questo, ormai lo sappiamo, no? Tanto ormai sciroccata. Sciroccata. Che praticamente è positiva al coronavirus, ma scusa è Daniela, scusami Daniela, ma che sei collegata con l'auricolare per caso? No, sto viva con voce, la, col senti? Col viva voce. Con il mio telefono, mi senti bene ora? Non lo so, boh, sì, ti sento, ma c'è un rimbombo nella stanza, vai, dimmi, dai. No, non fa niente. No, qui dico, no, la Pellegrini piange, ma mica perché c'è il coronavirus, ma che non può andare a fare la gara, perché lei non ha assolutamente nulla, certo. È asintomatica. Ma che vuol dire? Come il 99,9% degli italiani, adesso sparano sti 10.000 casi, 10.000 positivi, oddio, cioè se senti il telegiornale, sembra un bollettino di guerra, cioè stiamo arrivando a dei livelli di follia assoluta. La maggior parte delle persone sono asintomatiche, come la Pellegrini, come quell'altro, come si chiama quello che corre con le moto? Valentino Rossi. Tutti che il giorno prima era positiva, il giorno dopo era negativa. Ma com'è possibile questa cosa? Come quello delle Iene, come tutti quelli delle. Oh, ma tu avevi mai sentito un VIP che è andato a finire in terapia intensiva o ricoverato in ospedale? Quello che faceva alla Rai e poi è andato a Mediaset, come si chiama? Dice che è stato malissimo, non lo so, qualcuno è stato malissimo, su questo non c'è dubbio, qualcuno è stato malissimo. Giacobbo è stato malissimo, come tante persone fanno male anche per altre patologie di cui non parla più nessuno. Ma che ne sa? Ma scusami, adesso tu porti ti occupi di far pascolare dei cani, ma com'è possibile che parli di questa roba? 6 milioni e mezzo di persone nel mondo sono morte di tumore, 1 milione è morto di con il coronavirus, perché tanto qua aggiungono morti persone che sono morte per l'altro persone che stanno in terapia intensiva, cari signori, stanno in terapia intensiva perché entrano peraltro, risultano positive al tampone, perché adesso nel momento in cui metti piede all'ospedale pure per una cazzata ti fanno il tampone, lo capite sì o no? La maggior parte delle persone infatti i numeri sono anche ma infatti i numeri vanno rivisti. Comunque la Pellegrini, giustamente, scusami, hai detto l'ottimo Garramone. No, hai detto una cazzata. L'ottimo Garramone, l'ottimo Garramone, grande autore televisivo, mi segnala una cosa: che la Pellegrini aveva febbre, non è asintomatica, aveva la tosse. Io aggiungo, non lo aveva. No, aveva febbre, aveva la febbre, quindi non era asintomatica. Quindi vuol dire che sei una scappata di casa. Vuol dire che non sai neanche quello che dici. Ma cosa c'entra il governo con la Pellegrini? Senti, per favore, porta a pascolare i tuoi cani. Porta a pascolare i tuoi cani. Fatti leccare dai gatti. Fatti leccare dai gatti. Fai la, fai la cantante. Ma io non ci penso in alcun modo. Soprattutto la cantante. E fai anche la cantante, esatto. Fra una leccata di gatto, una leccata di Parenzo, uno potrebbe anche scegliere la leccata di gatto, oggettivamente. Insomma, se fosse... Ma io no... di gatto. Guarda, non ambisco in alcun modo a sfiorare neppure con una canna da pesca questa scappata di casa. Ma guarda, Parenzo, la cosa è reciproca. Io infatti non so tua moglie come fa a non ti preoccupare. Non ti preoccupare che fa. Non ti preoccupare che fa, cara signora. Posso dire una cosa? Sì. Scusami, questi qui hanno scopato soltanto quando hanno dovuto mettere al mondo i figli, perché non mi sembra che abbiano questa attività sessuale così, insomma, importante. Questo è pesante. Ma che adesso, ma che ne sai tu? Che ne sai tu? Che ne sai? Che ne sai tu? Guarda che tu non trasudi sessualità, sono uomini che trasudano sessualità, tu se, zero. Ti posso dire posso dirti cosa trasudi tu? Cosa trasudi tu? Tu e le tue canzoni e il tuo... Guarda, preferisco quando canti, arrivo a dire che preferisco la Martani cantante, e dico tutto, preferisco la Martani cantante alla Martani che si occupa di queste cose. Alle Martani che si occupa la tesi di base di Daniele... Che mi occupo, senti, eh? La tesi di base su questa di Daniela, su tutto quanto questa vicenda del coronavirus, è che lasciamo perdere un delirio, perché lei non è allarmista e su questo c'ha perfettamente ragione, vuole continuare a fare la sua vita mentre stanno in parte distruggendo l'economia di questo paese per una mortalità molto bassa. Che non fa un cazzo, scusa. Parenzo parla perché c'è il culo parato, c'è il culo parato. Ma dov'è il culo parato? Sono le persone che non hanno più il lavoro, dov'è? Cioè, lavori in radio, vieni pagato, caro. Invece ma io sono una partita IVA, non sono mica assunto. Io sono una partita IVA, se sono assunto, ma non sono assunto. E che vuol dire? Se la trasmissione chiude, chiudo anch'io, Sei parato, dai, sei parato. A questo punto, guarda, dai, ti prego, sei parato. Ma comunque tu devi provare a vivere con 600 euro, anzi con 1800 euro per 8 mesi. Vediamo se ce la fai. Dai, proviamo, no? Ma vediamo pure dire, questi scusa? Del governo. E cosa c'entra vuol dire questo? Che alle partite IVA fino adesso hanno dato... 1800 euro, 1218. Però sì, tu, col bonus vacanza sei andata in Sardegna, vecchio rimprovero che ti hanno fatto. No, io non sono andata in Sardegna col bonus vacanza. Io sono andata con i soldi miei che mi sono messa da parte lavorando l'anno scorso anno, va bene? Però chiaro che se poi non lavori per tutto l'anno, sti cazzarola di soldi finiscono, chiaro? Quindi, ma poi scusami, lei oggettivamente non ha figli, ha quattro cani, quindi... è una stracciona, e quindi quei quattro soldi che si è messi da parte è andata in Sardegna. Che deve fare? Andata a spese di qualcun altro in Sardegna, qualche ricastro l'avrà ospitato. Capito, e le avrà offerto, appunto, se le esatto, le esatto. Sere, che cosa vuoi? Ma però, scusate, fermo un attimo. C'è un altro elemento che è successo in questi giorni. In questi giorni è successa un'altra cosa. L'europarlamentare di Fratelli d'Italia, Berlato, cacciatore e uno dei capi della lobby dei cacciatori, perché per me è assolutamente legittimo, vuole presentare una proposta per equiparare ai terroristi chi va a rompere i coglioni ai cacciatori, a chi va a pesca, eccetera, eccetera. Per me è giustissimo. Chi va a rompere i coglioni a questi? Vabbè, ci sono... ogni volta che esci con queste cazzate, capito? Ma ci sono dei gruppi organizzati di persone col passamontagna che vanno a rompere il cazzo. Ma sono i cacciatori che rompono il cazzo alle persone normali che vogliono andarsi a fare una passeggiata in un bosco e devono avere paura di prendersi una pallottola. Cioè fanno benissimo quelli che vanno a rompere il cazzo ai cacciatori, non ho capito. Assolutamente sì, ma questi minchioni vecchiacci, tra l'altro, sono tutti dei voracci che non hanno un cazzo da fare. Cioè la verità è che siccome vivono nei paesi, ma non dire cazzate, ma cosa dici? Pensano che l'unica attività ludica della loro vita. Dunque è giusto andare a rompere i coglioni con ma sono loro che rompono i coglioni, ma tu non è giusto andare lì a danneggiare i loro arsenali. Ma sono loro che danneggiano, quelli sparano pure addosso addosso alle case, addosso alle persone. Ma non dire, ma non spara nessuno addosso alle persone, non diciamo cazzate, dai. Può entrarti dentro al tuo terreno. Dunque è giusto andare a fare danni dove lasciano i fucili, dove lasciano. Assolutamente sì, ma io vado con la mazza, capisci? A questi bisogna colpirli con le mazze, capito? Ma come colpirli con le mazze? No, colpirli assolutamente sì, assolutamente. Colpirli con le mazze è violenza, colpirli con le mazze, porca puttana. Sono degli esseri pericolosi che girano, poi dei vecchi, capito? Che manco ci vedono, ti tirano, che sparano così a casaccio, capito? Scusami, però c'è anche Roberto Baggio. Ma delle volte si ammazzano pure tra di loro. C'è anche Roberto Baggio, c'è anche Roberto Baggio tra questi qua. Roberto Baggio è un finto del, ma guarda, poi ci becchiamo le denunce, è un finto buddista. Lui dice di essere buddista, ma il Buddha non va ad uccidere, non ha mai andato ad uccidere proprio un cazzo grande nessuno. Cacciatore, quindi Roberto Baggio, grande cacciatore. Consegnare il Gonzon indietro, perché lui non può, non si può definire un buddista. Bellissima quella foto con la panda 4x4 verde, stupenda da caccia, in tenuta da caccia. Dai, poraccio, cioè pure questo, un altro che ha smesso di giocare a calcio, non c'ha più niente da fare e allora va a caccia, capisci? Ma che è un assassino pure lui, un assassino pure lui, un assassino pure lui. Io una volta l'ho portato in aereo in Argentina, perché lui andava a fare caccia grassa in Argentina. E beh, che male c'è? È stupenda. Ma pensate che sfigato uno che deve servito, e gli hai servito il vino? E gli è servito il primo in prima classe? No, ne vuole ancora, signor Baggio? Slap, signor Baggio? Ma prego, ma se vuole anche toccarmi il culo, signor Baggio. Io non sono una vecchina, capisci? Non sono come parecchie. Ma non ho capito una cosa, perché non ho capito. Tu cosa hai detto? Scusa, cosa hai detto? Scusa, non lo so. No, cosa ha detto? Non ho capito cosa ha detto. Io pur di lavorare, cos'ha detto? Pur di lavorare, cos'è che ha detto lei? No, ripeti cosa hai detto. Tu non sei, ma io pur di lavorare, cos'è che hai detto? Lo puoi ripetere? Cosa hai detto? Non ho sentito bene. No. E io, cosa hai detto? Cosa pur di lavorare io? Adesso? Cosa, che sei un lecchino? Che sei un lecchino? Fammi sentire, io pur di lavorare, ma sulla base di qual è il dato? Che, perché lo sarei? Ma detto che pur di lavorare sei un lecchino. E che dove lo farei? Spiegami. Al governo, ha detto. Cioè, siccome a te non ti invita nessuno perché ti considerano una stracciona, tutti gli altri che vengono invitati a fare delle cose per te sono dei lecchini. Peccato che stavo a Mediaset ieri e l'altro ieri. Esatto. Ma ti invitano perché sei un pagliaccio. Siccome sei un pagliaccio, gli fai comodo e ti invitano. Fermi tutti, perché dici delle stronzate. Stavo parlando di caccia. Io voglio capire una cosa. Tu, uno come Roberto Baggio, lo consideri un criminale, un assassino? Come lo consideri? Ma scusa, ma tu uno che va in giro è un assassino, sì o no? Senza paura, non avere paura delle querele. Se lo consideri un assassino, dillo chiaramente. Ma chi deve le querele? Ma dillo che è un assassino, dillo che è un assassino, non c'è coraggio. I cacciatori sono degli assassini, va bene? Fermi tutti. Ciao, ciao, ciao. Chiedo scusa, un momento, chiedo scusa, pubblicità. La Zanzara. Sì, senti che roba. C'è un telefono, sei un telefonino. Sì. Stanno chiamando. È un telefonino che squilla. Stanno chiamando per chiudere la trasmissione. È una chiavata in arrivo. Pronto? Stanno chiamando per chiudere la trasmissione. Oh, make me over. I'm all I wanna be. A walking study. Raga, io so due giorni che mi spacco di sedano, gambi su gambi su gambi, e ancora non ho scovato. Ma voglio vedere, voglio vedere. Io non pensavo che questa trasmissione potesse andare oltre, ma dopo l'ascolto in diretta ieri del vibratore nel culo di Sarah Slave, mamma mia, siamo al plug top. Ragazzi, ascoltare nella istituzionale, gloriosa radio di Confindustria, Cruciani che attiva il plugin anale, ragazzi, che spettacolo, mi avete fatto svoltare la mattinata, che spettacolo, grande Crux, grande! vibrava ieri, vibrava ieri il plugin anale della pornoattrice. Vibrava. Ma ieri, cosa vuol dire nella, la mattinata? Perché c'è gente che ascolta la trasmissione anche al mattino. Grazie al cazzo, e grazie al cazzo. C'è gente ma che non si sveglia senza ascoltare questa trasmissione. No. Ma non sono arrivati. Cioè, quindi tu dici vibranti, che c'è la gente vibranti per lo scusi, scusi, scusi Freccero, scusi Freccero, ma è finita la l'FM, è finita. Adesso c'è il podcast. No, si potrebbe dire c'è il podcast alla carte, alla carte. No, cazzo, no, un modo assolutamente strano di fare una fruizione naturalmente radiofonica in cui uno può prendere quando vuole il prodotto. Naturalmente è l'impero americano che ha vinto naturalmente lei è questa contro, idea. Lei è contro. Dai, una mercificazione. Come live, si fa? Live, tutto live, il podcast registrato. Ma come si fa? Naturalmente accade una notizia e tu devi essere in grado naturalmente di raccontarlo. Pensiamo a un grande tema, la morte. Naturalmente. Beh, sempre la morte, naturalmente. Però sempre, sempre dai, la morte. Che però funziona, dai. La vedo, bisogna dire naturalmente, e la sento che... molto carico in questo periodo quando aumentano i morti. Dai. Aumentano i morti. Io la mattina, naturalmente, la mattina la prima cosa che faccio mi sveglio e dico che cosa dirà il signor Brusaferro, naturalmente. Io tutte le mattine naturalmente vedo la curva dell'auditor e la curva del contagio, c'è naturalmente una coincidenza, quando il contagio sale, sale naturalmente anche la curva dell'auditor, quando si torna in un regime di normalità, ai noi naturalmente, anche la curva scende e i talk show riprendono a parlare di riforma del lavoro, noiosissimo, dai, e cosa, è la finanziaria, l'intervista al ministro, scusi ministro, che cosa c'è in finanziaria? Ma come si fa? È roba da telese, dai, è roba da telese. Come si ci fa? Ci vuole la morte, dice lei, no, ci vuole la morte. Il brivido, quanti saranno i contagiati? Il virus è dentro ognuno di noi. La persona che incontro per strada potrebbe potenzialmente infettarmi. Questa è realtà, naturalmente. È racconto, è vibrante racconto, naturalmente. Allora, abbiamo un collegamento, grazie Francesco, abbiamo un collegamento da Tokyo con Francesco. A Tokyo. Tokyo sono oltre le due di notte. Tokyo. Da Tokyo, sì, da Tokyo. Sì, Francesco da chiama Tokyo. Da Tokyo. A Tokyo ci ascoltano moltissimi, ci ascoltano da Tokyo. Ma leggo perché qui... uno deve ascoltare la trasmissione? No, da ma Tokyo? Perché? Ma porca la gran puttana, c'è gente che non riesce a farne a meno e tu non lo capisci. Francesco da ma Tokyo. Ma no, lo capisco, infatti il mondo va a puttane, lo capisco io. Certo Francesco da Tokyo, capisco. Che è rimasto sveglio, immagino, per noi oltre le due di notte, vuole parlarci dello spitting e di altre cose giapponesi. Dimmi, caro Francesco, dimmi tutto. Ciao Parenzo, non so se il mondo va a puttane, però io sicuramente. Ma tu vai a puttane in Giappone? In Giappone. Sì? Beh, anche sì. Non so se più nei locali scambisti, però anche. Cioè, ma anche nei locali per scambisti in Giappone. Cioè, mi stai dicendo che in Giappone ci sono locali per scambisti? Non lo sapevo. Sì, ce ne sono moltissimi, solo che noi gaijin, noi stranieri, non possiamo entrare nella maggior parte, però ne ho trovati un paio. Sì. Quindi dove ti fanno entrare? Ma perché ho scritto qua, leggo scritto qua spitting? Cioè, perché volevi parlare in particolare dello spitting? Cioè, tu ami sputare addosso alle giapponesi? Dunque, immagino. Beh, sì, e anche alle coreane. La mia ragazza è coreana, in realtà, quindi più alle coreane che alle giapponesi. Insomma, io amo farlo se a loro piace. Perché è questo che bisogna un po' sdoganare, è una forma di rispetto per me sputarli addosso. Se gli piace, mi sembra logico fare delle cose che gli piacciono. Quindi se lei cioè, però è una pratica che tu ami, è una pratica che tu ami, quella dello spitting. Sì, mi piace tantissimo, soprattutto vedere la reazione. Cioè, una ragazza che durante il giorno lavora magari alle Nazioni Unite o all'università, è elegantissima, e poi a letto e dice sputami in faccia, è bellissimo vedere la reazione. Cioè, sputami in faccia, caro Parenzo. Una ragazza che ti dice sputami in faccia. Ma non è straordinaria questa cosa qua? Non è meravigliosa? Ragazzi, io... Non è stupenda questa cosa qua? Quali altre ma pratiche? Come forma di rispetto. Come forma di rispetto perché lei vuole quello. Dunque tu la rispetti. Bene, se fai qualcosa che a quella donna piace, tra cui sputare in faccia, la rispetti. Vabbè, fatelo, la rispetti. Fatelo. Non c'è problema. Ma perché mi dovete convincere? Ma voi fatelo. Io sono felice. Scusami, se Francesco, voi lo fate. Cosa succede? Cosa pratichi di altro in Giappone? Ma la cosa diciamo più eccezionale qui è lo spitting, veramente. Tra l'altro è molto importante parlarne perché in italiano non c'è una parola per spitting, in giapponese ce l'hanno. E come si chiama? Shofuki, che è questo. Come si chiama, scusa? Shofuki. Shofuki. Chiofuki? Sì, che è lo spruzzo delle balene. È lo spruzzo delle balene. È lo spruzzo delle balene. Ma tu hai trovato le donne particolarmente grasse, quindi fanno lo squirting per le balene in quel senso? No, per niente. Tra l'altro è per quello che non muoiono di coronavirus, che non, cioè grasse non ci sono. Però scusami un attimo, ma questo Shofuki, cioè, tu hai riscontrato che c'è una media superiore di donne in Giappone che squirtano? Al 100%. Cioè le giapponesi squirtano di più? Sono più abituate, cioè è una cosa naturale, in alcune regioni, anche altro modo, insomma, in alcune regioni del mondo è una cosa naturale che si continua. Cioè, ci chiamerà pure l'ambasciata giapponese adesso. Cioè, tu dici che pure in maniera naturale, cioè loro sono più abituate a questa pratica, dunque ci sono più donne che in Giappone, che, dalla tua esperienza, penso che sia un'esperienza notevole, rispetto ad altri paesi in Giappone squirtano di più. Sì, cioè, se andiamo proprio per categorie di paesi, in Giappone, in Corea sicuramente di più, alcuni paesi africani, Caraibi, Shofuki. A te piace lo squirting? Lo spruzzo della balena. Ti piace? Stiamo parlando anche di un metro e mezzo, due metri di squirting, è bellissimo vedere questa fontanelle che esplodono. Beh sì, la famosa fan fontaine. Fermi tutti, ciao Francesco, ciao. La Zanzara. Vuoi firmare i tuoi contratti e documenti in modo sicuro e da qualsiasi postazione? Usa la firma digitale di Aruba. È l'equivalente di una firma autografa di fronte ad un notaio. Ha quindi pieno valore legale. Attivala adesso su aruba.it. Questo è lo sputo. Ma che c'è la Ferruzzi, quella là? Che voleva la Ferruzzi? La Ferruzzi, quella che è trans, la Ferruzzi che è trans? No, sì. Io voglio fare il piercing al buco del culo, quindi se qualcuno lo sa fare mi scrive in privato e io lo vado a fare. Manco mi ricordo se è trans o no. Comunque questa qua si vuole fare il piercing al buco del culo. Pare che sia una cosa abbastanza difficile da realizzare, il piercing. Ma uno che se lo fa fare il piercing al buco del culo? Io vorrei capire questa cosa qua. Dipende da quanti lo visitano poi quelle. Sì, ma che vuol dire il piercing al buco del culo? Cioè non riesco, mentre capisco i piercing che sono visibili agli altri, beh, anche quello alla figa lo capisco, perché poi è una cosa assolutamente un simbolo, diciamo, No, è un messaggio a chi, alle persone con cui vai a scopare, che sia il tuo compagno, che siano altre persone o che siano più persone, non è questo l'importante. Ma il piercing a buco del culo forse ha un messaggio solamente erotico, ma che lo fai a fare? Domanda è, ma che porcheria è? Ma chi se ne frega? Ho capito, ma se quella vuole fare il piercing a buco del culo, ma chi se ne... possiamo dare una risposta o no? No, è più importante del recovery fund, è più importante sapere. Certo. Intanto, mentre un ministro dello sport e non so che cosa, Spadaforo, dà del bugiardo a Cristiano Ronaldo, il quale gli dice che invece ha rispettato tutti i protocolli, a Napoli, dove una sentenza per il momento è sfavorevole alla società Calcio Napoli, impazziscono. Sentiamo Del Genio, uno che si chiama Del Genio pur non essendo un genio, che è un giornalista locale. Questo tuo ottimismo finale, io non me la sento di condividerlo, perché se diciamo che questi sono potenti. Ah, sono potenti, sì, certo. Vanno sono pure potenti. Al tasto, dici tu. Io se ti dico che sono potenti, dico che sono potenti. Sono potenti. Lo sponsor della federazione è la Fiat. Cioè, la Fiat, secondo questo signore Del Genio, che non è un genio, la Fiat controlla la federazione. Cioè, controlla in parte, controlla la federazione, essendo lo sponsor, cosa ovviamente non vera. E la federazione, per carità, Sandulli, grande giudice, tutto quello, la federazione sponsor della federazione è la Fiat. È quello, cioè qua siamo a campo perso, Rosa. Forse si riferisce al fatto che la nazionale è sponsorizzata anche dalla Fiat, non lo so, ma è una follia totale. Senti. pubblici con i cavilli fanno tutto. Qua non è che ci sta uno che è stato fotografato mentre accoltellava un altro. I giudici possono fare tutto con queste situazioni. Paolo, qua è come quando i giudici possono fare tutto. Non so come funziona, no? Con le macchine fanno tra di loro gli incidenti e i giudici. E questo è stato. Ragazzi, è incredibile. Dove andiamo? Alessandra da Monza, Antonio da Napoli, vai Antonio. Intanto un immunologo dice: i vaccini arriveranno in primavera ma non salveranno tutti. Cioè, ragazzi, cioè, qui ci sono immunologi, virologi che ogni giorno ne tirano fuori una. Oggi Burioni ha detto una cosa, che nella terza settimana di novembre ci sarà forse un vaccino, evviva, ha detto addirittura evviva. Un altro, non meno bravo di Burioni, dice, un immunologo dice forse in primavera e forse non per tutti. Ma ragazzi, ma lo capite che non si sa un cazzo e non sanno ancora un cazzo? Sì o no? Antonio, dimmi. Ma non c'è, ma cosa vuol dire? Significa, dimmi una cosa, Antonio. Ti voglio far sapere, le femmine sono le prime zoccole, sono più zoccole dei cibo. Infatti io ho trovato pure una donna, sputami in bocca. Comunque passiamo a questo. De Luca vuole salvare lo sputo in bocca, lo spitting in bocca è una cosa fenomenale, no? Tra l'altro, cioè lo spitting in bocca per la donna, lo spitting in bocca, ma anche per l'uomo, soprattutto per la donna, però ricorda l'eiaculazione, dunque da lì viene. A me non piace. Ti fa schifo cosa? Sputare alla donna o essere sputato? Non ho capito. Entrambe. Ti fa schifo, vabbè, ti fa schifo. A me non piace, allora? Però... Comunque, poi, De Luca ha chiuso la campagna, dopo che non si può fare nulla, ma io sono contro una cosa del genere, perché io sono... ammaliamoci. Però, una cosa do ragione, non dobbiamo poi gravare sul sistema sanitario. Quindi, ci siamo ammalati di Covid, pagati tu le cure, perché... avevo detto di stare attenti. Ma che c'entra? Ma cosa c'entra? No. Dai, su, tanto ci ammaliamo. Mascherini o no? Ci ammaliamo lo stesso. Ci ammaliamo. In realtà ho sbagliato termine, perché non ci si ammala. Si prende un po' di virus. Chi lo prende peggio, chi lo prende meglio. Alessandra da Monza, dai, che devo chiamare un tizio che mi voglio divertire un po'. Dai, Alessandra, dimmi. Volevo dirti che ieri sera al pronto soccorso del Policlinico di Milano hanno saturato completamente il pronto soccorso di pazienti. Sì, pronto soccorso, certo. Molti erano giovani, sì. Avevano 40-50 pronto soccorso, anni. Pronto soccorso, sì, certo. Sì, poi esatto. Quanti sono stati ricoverati poi dal pronto soccorso alla terapia intensiva? Sono ancora tutti lì. Dunque il caso singolo adesso, il caso singolo di non so che cosa, dove lei si trova evidentemente, perché lei fa l'infermiera lì oppure lavora lì, No, mia sorella è rianimatrice al Policlinico di Milano. Sua sorella dice che hanno riempito ieri sera non so per quanto tempo il pronto soccorso dell'ospedale di Monza. Perché le prendi in giro? Perché la prendi in giro? È un dramma. Quelli che afferiscono, nel senso che è successo da un giorno all'altro, e sono pazienti giovani e senza malattie pregresse. E dunque non è possibile minimizzare e dire. Ma chi sta minimizzando? Chi minimizza? Mettiamo che ci avete ragione voi ed è tutto così. Che cosa si fa? Si chiude? Cosa si fa? Bisogna stare attenti. Poi la gente, ma grazie al cazzo che bisogna stare attenti, non mi fate incazzare con questa parola inutile. Ma allora bisogna chiudere delle cose che non servono, te lo stiamo ripetendo da mesi. Ma chiudiamo tutto, cioè adesso. Ma non tutto, cioè tu continui dialetticamente a rispondere, allora chiudiamo tutto. Ma qui la dialettica non serve. Ti stiamo dicendo che ci sono alcuni settori che si possono chiudere, che non sono necessari. Mamma mia. Si parte con i settori non necessari e si finisce a chiuderti. Ma è un argomento idiota, non è vero. Purtroppo nel culo di casa tua, perché non è un buco del culo di casa tua. Io abito in 50 metri quadrati. Ma non è così. Tu abiti in 300 metri quadrati col terrazzo, porca puttana. Allora, intanto c'è un gruppo di gente che va a Međugorje che la pensa in questo modo. Attenzione, i figli del maligno stanno progettando nuovi piani di repressione, di persecuzione e di chiusura. È così, dopo il lockdown dei mesi scorsi e la chiusura forzata delle chiese, ora il piano diabolico è far saltare il Natale, cancellare Gesù Cristo dalla faccia della terra, eliminare il nome di Dio, sopprimere il giorno della nascita, così come quello della risurrezione del Salvatore, cancellare i sacramenti, la messa, l'eucaristia, tutto questo è diabolico, infernale, satanico e conduce gli uomini alla rovina eterna. La pandemia è solo un inganno usato per mettere in atto, attraverso allarmismi sanitari che terrorizzano la gente, col diffondere numeri e dati falsi, manovre occulte che mirano a stabilire nel mondo un nuovo ordine massonico. Non si tratta di pandemia, ma di pandemonio, ossia pan tutto e daimonion demonio. tutti i demoni in azione. Pronto? Pronto? Chi è? Marozzi? Sì, chi è? Buonasera, mi chiamo Cruciani, buonasera. Sì, sì, dimmi, dimmi, Cruciani chi? Scusami. Come stai? No, ho letto quello che hai scritto su Medjugorje. Di che cosa si tratta? Dimmi. No, su questo pericolo che c'è della chiusura a Natale. Sono molto preoccupato da questa cosa qua di Satana e del maligno che stanno progettando tutto questo, hai capito? Ma chi lo dici? Ma stai scherzando? No, sei preoccupato anche tu? Ma io non sono preoccupato perché mi affido a lei, tu lo sai, insomma, ecco. A chi? Alla Madonna, chiaro. No, ma la cosa che voglio capire, scusami amico mio, io sono veramente preoccupato da questa cosa qua. Chi è che sta inventando tutta questa pandemia per cancellare Cristo, per cancellare la Chiesa? Chi c'è dietro? Ma c'è dietro il maligno, è normale. Cioè il maligno che cosa sta facendo con la pandemia? Ma cosa sta facendo la pandemia? Lui ha creato tutto ciò che serve per far allontanare la gente da Dio. Sarà un dramma. Sì, è vero, ma a noi l'unica arma per abbattere questo problema è il rosario. Non fai affidamento sulla scienza, non ci credi alla scienza. Ma la scienza è superficiale, sono cose del mondo, non sono cose della spiritualità. Sì. Possono servire per le stupidaggini, ma non sulle cose serie. No, ma voglio capire questa cosa qua, chi c'è dietro? Un nuovo ordine massonico, cioè Bill Gates, chi c'è? Quelli che stanno dentro a questa sono gli atei, quelli che sono contro Dio. Contro Dio. Allora, tutti questi persone che vengono dall'Africa, questi sono tutti musulmani. Eh beh, sì, certo. Secondo te, quelli che vengono qua a raccogliere i pomodori o le cetrioli, secondo te, sì, vengono per raccogliere i pomodori o cetrioli? No, che vengono a fare? Vengono per distruggere la Chiesa. Ah, ho capito. Però che c'entra con la pandemia questo qua? Spiegami. A parte che la pandemia è una grande invenzione, perché tutti quei morti che ci sono stati sono stati provocati dall'errore degli uomini. Tutto si riversa dentro, perché io conosco delle persone. Scusami amico mio, tu stai dicendo che sostanzialmente la pandemia è inventata e che dietro c'è il demonio, fondamentalmente c'è il demonio. L'uomo non è affida più le cose agli uomini, non a Dio. Quindi noi, siccome non siamo capaci di fare niente senza Dio, allora Dio ti lascia perdere, fai tutto quello che vuoi. Ti ignora, dice, certo, quindi ti ignora, ecco, e ti lascia, certo. E questo comporta quello che succede. Sì, ma cosa c'è di satanico in tutto questo? Spiegami, cosa c'è di satanico? Ma è Satana che non vuole più la famiglia, perché se c'è la chiusura, tutti questi litigi che stanno in famiglia, tutti questi morti, ne stanno a catastro. E chi è che lo vuole questo? Vuole Satana, perché non vuole più la famiglia. Ma scusi, lei perché ha smesso di prendere quella pillola? Come, scusami? No, voglio dire un'altra cosa, scusi, la cosa fondamentale, scusami amico mio, però io credo che sia un'altra. Io ho veramente paura di questo maligno. Cosa fare contro questo maligno che ci vuole rinchiusi dentro casa perché vuole distruggere la famiglia? Cioè, questo è il punto, vuole fare saltare Natale, vuole eliminare Dio. Cosa fare contro questo maligno? C'è un metodo, oltre a pregare? Sì, ce n'è uno grande. Qual è? Uno grande, il più grande che esiste, il Santo Rosario. Ah, il Santo Rosario. Tu dici il Santo Rosario potrebbe porre fine alla pandemia? No, non c'è nemmeno mezzo dubbio. Cioè, il Santo Rosario vale più di, che ne so, di un Burioni, di uno studioso, di uno scienziato. Ma che fai con lo studioso? Che studia lo studioso? Studiare lo studioso? Il vaccino, per esempio, il vaccino. Sarà meglio il vaccino? Ma il vaccino, se non è fatto con Dio, non risolvi niente. Come no, scusa. Che vuol dire vaccino senza se non è fatto? Quanti morti ci sono stati nel Bergamasco? Non lo so, tanti morti ci sono. Ma lo sai perché sono morti tutti quelli persone? Perché sono stati curati malissimo e loro tutti vaccinati. Il vaccino anti-influenzale 2019. Ho capito. E dunque, meglio il rosario del vaccino? 3 milioni di milioni, no, ma il rosario è fatto con il cuore. Ma se non andiamo più a Medjugorje, se non possiamo più andare a Medjugorje, come facciamo? No, ma ritornerà, perché lì ci sarà un segno grandissimo. Io parlo spesso con Visca. Io con sono amico, vado da tanti anni lì. Ah, è una veggente, sì. Sì, una veggente. Tu sei stato mai a Medjugorje? No, non sono stato. Non mai, sono stato, mai, non mai. Sono. Mai. Ah, ecco, ecco. Parli con la veggente, che ti dice, veggente? Che ha parlato con la Madonna, no. Che ti dice? Che succederà qualcosa? No, lei dice che la soluzione migliore contro questo male del mondo è solo... La il vaccino, preghiera. La preghiera. Ah, sì, la preghiera. Ah, non il vaccino, quindi il la preghiera. Rosario. No. Santo Rosario. Il problema è uno. Qual è? Il problema è uno. Qual è? Bisogna affidarsi a Dio. E altrimenti siamo fritti, caro. Ma affidiamoci alla scienza, magari, no? Non a Dio. Tu dici che la scienza non conta un cazzo, amico mio, dai. Ma la scienza è una cosa che Dio la conosce a memoria. Se è lui il creatore, che cazzo può fare i scienziati senza Dio? Ma non lo vedi che non sono capace manca di fare un raffreddore? Se lei ha la febbre, scusi. Tu hai detto una cosa, io mi fido più del rosario che della scienza, questo hai detto. Ma normale, ma questo non c'è dubbio. E affidiamoci tutti a questo rosario, e tanto è l'ultima possibilità, affidiamoci a sto rosario, ragazzi, che vi devo dire? Sì, ma i scienziati devono cominciare a pregare. Prima del rosario, oltre al rosario, le posso solo dire una cosa veramente senza nessuna polemica? Non lo puoi dire, non puoi dire niente. No, una. Non una. Puoi dire niente. Senza polemica. Ciao, amico mio, ciao. Affidiamoci al rosario, Paolo da Milano, fammi godere, prima di chiudere ed affidarci tutti quanti al rosario, fammi godere un po', Paolo, vai. Crucio, sono un cacciatore. E allora? Sono in partenza. Dove stai andando? Perché non hai chiamato prima quando c'era la Martani? Perché non hai chiamato prima? Perché mi sono collegato, il tempo di partire l'ho sentita. Allora, dimmi, sei fiero di essere cacciatore? E allora sono fiero di essere cacciatore, ho 33 anni, me l'ho passato a papà la passione. Ti funziona l'uccello? L'uccello ti funziona? Tira che è una meraviglia. Tira che è una meraviglia. Dunque tu non hai sostituito... Sei fidanzato? Ma saranno cazzi suoi. Non hai sostituito l'uccello con la carabina o col fucile? Assolutamente no. Ti è Martani, ti è italiani! Italiani! Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7:30, alle 8:00. Lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Martina e oltre 500.000 di aziende e professionisti usano la fatturazione elettronica di Aruba perché è semplice, è completa e conveniente da una nuova intuitiva app. Fatturazione elettronica di Aruba. Chi l'ha scelta non la lascia più. Vai su aruba.it.